dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan. Va ora in onda Dietrologia Videoludica. Buia profonda si trova un piccolo paese dimenticato. Il paese è conosciuto sotto il nome Le Ruine, costruite come città sacra per gli abitanti della foresta. Al di là dei tempi della città sacra, nascosta nelle ruine giace una singola dichiarazione, la chiave alla sua esistenza. Che posa una tragedia a colpire quelli che rimuoveranno la statuetta dal buio profondo. La statuetta rimossa dalla città sacra, morte e distruzione colpiscono gli abitanti che abitano nel suo territorio. Torna la statuetta dell'oscurità al suo legittimo posto. Sotto il cielo buio e malinconico, Cisalvor comandò i suoi uomini una missione dentro le ruine. La zona dell'oscurità distrusse i combattenti, non lasciando alcuna traccia. 1x17 senza lasciare tracchia. Lo avete sentito da questa fantastica seconda intro dell'intro o post intro dell'intro di Dietrologia Videoludica, e quindi vi diamo il benvenuto dandovi subito la sensazione di che tipo di puntata vogliamo cercare di realizzare con questo nuovo ultimo episodio, che è stato ideato anche per cazzereggiare un pochino, per festeggiare insomma la fine di questa prima grande stagione di Dietrologia Videoludica e farvi anche i saluti per le vacanze estive. E ovviamente, vabbè, prima di presentare i miei compagni vi do immediatamente i riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it, giusto? Se non sbaglio, Dietrologia Video Ludo è il nostro Twitter, e invece su Facebook e su G+ ci trovate come Dietrologia Videoludica. Insieme a me, ovviamente, il mio compagno di viaggio, il mio socio, il controboss, colui che ha la musichetta un po' pop, un po' blues, un po' porno, è il nostro amico Roberto, sì, Giovanni Francesco. Antonio, proprio lui. Il nostro amico Stefano Big Joe, Bigio. Buonasera, grazie per non ricordarti neanche il mio nome. No, ma voi lo sapete che io vengo da 3 settimane di tubercolosi, quindi... Ma quindi hai ufficialmente la tubercolosi? Ufficialmente la tubercolosi, e tra l'altro questo è il primo giorno che ho tossito meno delle 10 ore con però ho sputato sangue. Ascolta, ma tu lo sai che la tubercolosi è stata debellata nel mondo moderno da circa 200 anni? Questo è quello che pensi tu, e tu sei riuscito a tu. Prendertela. Ricordate che la tubercolosi non è stata sconfitta, è mutata e esatto. Rimuterà nuovamente. Se tu vai in Sud America, come ha fatto il Pizzi, c'è il ceppo quello irresistente. Lì ho preso l'Ebola e un'altra serie di malattie, visto che c'era. Accanto a me fisicamente era un po', forse qualche puntata che è mancato da Dietrologia Videoludica, non vedeva l'ora di fare questa puntata proprio per dire un sacco di cazzate, cioè Marco Gualdi, il distruggitore. In realtà sono mancato solo nell'ultima, mi sa. Vabbè, sono, se per me sono una mera di puntata. Era un'assenza rumorosa, diciamo. Sono mettiamola un rumoroso silenzio. E questa è la puntata che si chiama appunto Senza Lasciare Racchia, perché balletta anche in un modo particolare, prende spunto appunto da questo bellissimo estratto di Kingsfield 4, è vero, perché anche perché ho questa tubercolosi che mi toglie, e perché te l'ho attaccata, me l'ha attaccata purtroppo, e quindi niente, ci siamo gustati. È una tubercolosi nuova che fa tossire il cervello, e sanguinare le orecchie, quindi esatto. Nei buchi dell'orecchio da casa sua A Chieti, Rieti, dov'è? Non mi ricordo. Chieti, a Chieti. La tubercolosi ha colpito brutto. Tutto, pure la geografia. Abbiamo il nostro saggio che nell'ultima puntata che ha partecipato ha detto che lui è il grande ospite, ma in realtà lui è parte integrante di questo gruppo, diciamolo, perché oramai se dietrologia videoludica meno marrone è dietrologia video... manca qualcosa, capisci? Quindi, no. E quindi Luigi Marrone. Ciao a tutti, veramente vado contro me stesso, ma dico che non è vero assolutamente quello che ha detto Simone. Partecipo come ospite perché il grosso lo fate voi. Anche questa puntata è partorita dalle vostre menti tubercolotiche, per cui non posso anche se a dire il vero, poi tu in realtà autore di una puntata lo sei stato ed è stata anche molto molto interessante. Chiaramente voglio dire, cioè, nel senso, noi facciamo parte di una grande famiglia perché poi alla fine diventiamo tutti amici, ci vogliamo tanto bene, giusto? Quindi posso venire a mangiare a casa vostra e rubare i vostri frigoriferi quando vuoi, okay. Tranquillamente, secondo me il frigorifero mio, vai tranquillo. Ok, però brutto è che ti prendi poi anche tu la tubercolosi mentale, quindi... ricordati Luigi che prima o poi moriremo tutti e non lasceremo tracchia, chiaramente. Hai ragione. L'autore di questo episodio, l'autore, diciamo, un po' autore insieme a Marco, ma in realtà è lui, insomma, la colonna portante, perché poi l'ha presa con entusiasmo e ha fatto un bel lavoro anche di ricerca, ovviamente Giuseppe Saso. Buon salve a vedi tutti. Che Giuseppe però mo so ricordato. Grazie. Il che mi fa preoccupare, perché comunque può essere che se ci siamo visti qualche giorno fa, come ancora ricordo, può essere che me l'hai pure mischiata. Esatto, dai dinosauri, se ti ricordi. Proviamo. Mamma mia, ragazzi, siamo andati a vedere Pacific Rim, che diciamolo. Che bel film di robottoni di Menare. Film di Menare e di robot. Esatto. È divertente per quello che è, perché senza pretese. C'è solo uno scivolone, secondo me, che è un po' sta cosa dei dinosauri, insomma, se la potevano un po'... Ma secondo me ce lo dovevano buttare, perché è nel DNA giapponese che dovevano buttarcelo. Quindi qualcosa di giapponesi. Si doveva, siccome che è una cosa, è una produzione americana, però... Però è giapponese. Però è molto Japanese oriented. È un grande omaggio, diciamo. E come il Jetta Robot, che derivano dai dinosauri, quindi ce lo dovevano mettere sta cosa dei dinosauri. Ma io l'ho visto, ecco, faccio una parentesi, io l'ho visto gli avantieri, in 3D, in lingua originale... A parte avermi che lì altro che allora, scusa, posso dire una cosa? Sì. Poi dopo continui tu. Lì altro che tubercolosi, lì è da ictus, perché tu l'hai visto in 3D, quindi sdoppiato con i doppi sottotitoli. Secondo me sei uscito sì, cioè l'esperienza. Allora, cioè, hanno fatto una pausa per il primo tempo. Io camminavo come in Paura e Delirio a Las Vegas quando si fanno di etere, praticamente. Invece eri fatto di? Niente, di 3D, di 3D del cinema. Usciva solo il sangue dal naso. Sì, niente. Più o meno, dagli occhi, dalle orecchie. Diciamo che è stata un'esperienza che era come se qualcuno infilasse una mano nel mio cervello e lo stringesse con forza. Perché in più dovevo... E più doveva trovarlo. Doveva trovarlo, esatto. Quindi usava solo l'indice e il pollice. No, detto ciò, sì, film che mi è piaciuto, che ha... tanto troppo di Evangelion, di Mazinga, di Getta Robot, di... Ma sì, ma anche un colpo di Power Ranger, anche quello ci volevano fare, non è che volevano fare un film, cioè non è che volevano fare l'uomo d'acciaio. No, per carità. No, ma io sono andato lì per vedere un film ignorante, cioè una lobotomia di 2 ore praticamente. Gente che ti combatteva addosso in 3D. No, ecco, anche quello, grande tristezza. Nessuna di quelle cose mi ha combattuto addosso in 3D, come al solito. È una tristezza. Il 3D è una tristezza. Il 3D è morto, ragazzi. No, io lo volevo vedere in 2D anche per. Infatti, noi l'abbiamo visto in 2D. E ci è piaciuto. Ma forse avete. No, ma non mi è dispiaciuto. È molto. Banale, io in effetti avrei messo più combattimenti e meno dialoghi, sinceramente. Diciamo che secondo me è un film a buon budget, ma non è il film a super budget, diciamo la verità, no? Perché secondo me poi alcuni pezzi forse avrebbero potuto essere così, più, come dici te, più combattimenti. Però sì, il certo, cazzottone in testa alla Bud Spencer del robottone, cioè vale il film, vale il bigliettino. No, per carità, tanto di cappello. Ma il biglietto che Marco non ha pagato. Proprio. Esatto, quella cosa anche più bella. Ma la cosa più bella che mi è piaciuto in tutto il film, sapete qual è? È il doppiaggio. Cioè, per tornare a bomba, perché adesso noi parleremo proprio di questo, quindi parleremo dei migliori doppiaggi videoludici della storia. Perfetto. Attenzione, Allora, prima di entrare proprio nel vivo, vi dico: grande finale di Italian Podcast Network, archeologia videoludica, dietrologia videoludica, addirittura dietrologia videoludica e archeologia videoludica con doppio appuntamento. Piano. A distanza, sei malato. Fare la TBC. Perché mi devo sbrigare, capito? Dobbiamo prima andare... di morire. Prima che dimentichi. Poi la gente si stufa di ascoltare queste cose. Dicevo, comunque, archeologia e dietrologia, due puntate addirittura a distanza di 5 giorni una dall'altra, quindi praticamente in 15-20 giorni saranno 4 episodi, grande finale proprio di stagione, e poi anche altri episodi di altri podcast che, insomma, se seguite Italian Podcast Network ve ne renderete conto, e questo ci fa piacere darvi questo grande saluto prima di settembre-ottobre, perché come sapete probabilmente a settembre nascerà la nuova piattaforma 2.0 che raccoglierà anche nuove trasmissioni, nuove situazioni, e chissà chi come più. Pornocast, sì, anche Pornocast, è vero. TBC cast quello è un partito. Insomma, tante belle trasmissioni, e a questo punto io darei il via alla trasmissione. Allora, Biggio, ora sì. È il tuo momento. Tu sai, ecco, sì. Nell'episodio precedente, quello che è andato in linea 5 giorni fa, in cui ci sono stati dei problemi, perché Biggio non arrivava mai. Non arrivava, io stavo lavorando, mica come voi. Stava lavorando. Lui lavora e guadagna i fantastiglioni. Sto sull'autobus, poi dice c'è la neve. Ma il fatto è che non è che sta sull'autobus, sta sul suo autobus. Per cui se ne tanti soldi che se ne è comprato uno, con tanto di gente dentro pagata per fare passeggero. Alcuni mi infastidiscono. Mi rubano il posto, il mio posto preferito, cose così. Quindi, per sentirmi più umano, ecco. Quindi lui ha dovuto registrare posticciamente e quindi non abbiamo potuto dargli il voto. Quindi questa volta adesso lui leggerà l'intro come al solito di questo episodio e noi daremo il voto sia per questa volta che per l'altra. Io non l'ho sentito, ma gli do comunque il voto. Non fa niente. Ecco, io spero che sia già un 10 per la simpatia. Il totale sarà 10 sicuro. Sei tranquillo. Spera che almeno in 10 ci arrivi. Va bene. Allora. Adesso spero che vada tutto bene, visto che mi prenderò un doppio voto di fine anno, tra l'altro, quindi... Secondo me dovresti immedesimarti sulla tracchia, dovresti partire da quel presupposto. Sulla tracchia, no, vabbè, allora qualunque mio errore può essere... Se no lo faccio a Gianmarco, che potrebbe anche essere... Lo leggo in giapponese. Non è inusuale che si lamenta dei doppiaggi e dei videogiochi spesso affidati a team poco competenti o comunque eseguiti senza particolare cura per il dettaglio. Se vuoi lo leggo così. Basta, per carità, vai Stefano, va bene. Io vorrei che Marco leggesse la parte in bolognese, però. Ok. Ah, va bene. Quando arrivo lì ci pensi anche, tu, anche e poi Giuseppe riprendo lo io può fare, subito, ok. È in grado anche Giuseppe. Stavo parlando. Niente, è uguale, fate voi. Allora, ditelo tutti insieme la parte Giuseppe, in bolognese. Allora, Giuseppe mi fa la parte della domanda e io rispondo. Ma non c'è nessuna risposta. La domanda, no, la risposta è quella, la domanda me la fa Giuseppe, anche perché io non me la ricordo, per cui. Va bene. Allora, inizio a leggere. Scusate, devo fare gli esercizi della voce di Demetrio Stratos. Adesso devo delle cose, ok. TBC 1, 2, 3, X. Addirittura dobbiamo evocare le persone che non ci sono più. Cioè, faccio l'anima su. Che tristezza. Allora, non è inusuale sentire gente che si lamenta dei doppiaggi dei videogiochi, spesso affidati a team poco competenti o comunque eseguiti senza particolare cura per il dettaglio. Di norma i puristi preferiscono il gioco in lingua originale, per non perdere tutte le inflessioni, le sfumature e i colori donati dagli attori originali, che, solitamente, si dimostrano di altissimo livello. In questo episodio ricorderemo i videogiochi localizzati nell'italica lingua con il peggior e miglior doppiaggio di sempre. E come si dice a Bologna... Mo chi ci proteggerà dalle forze del male? Prima di arrivare ai professionisti del dubbing moderno nella nostra carriera di videogiocatori, ci siamo dovuti sorbire delle belle prove di pseudattori che si esibivano in prestazioni da fare invidia ai peggior latratti che un cane possa emettere. Quali sono le tappe fondamentali, le pietre miliari, le porcherie memorabili del doppiaggio videoludico italiano? Allora, Allora, posso, grande, posso grande prestazione. Posso fare. Ma posso dire una cosa solo sul testo? Chi ha scritto il testo di introduzione? Ha scritto Peppe. Giuseppe. Io in realtà ho scritto la parte fino alla domanda che avevo provato a fare in bolognese. Poi, insomma, pensate un po' il bolognese. Dialetto bolognese siciliano. Mimato da un siciliano, esatto. Però ti è venuto bene, però. Grazie. L'altra parte non era già nel foglio, nel documento. Chi l'ha scritta? La cosa dei latrati, chi l'ha scritta? Cioè, no, non l'ho scritta. Dentro di una cattiveria. Chi ha scritta? Io no. Io neanche. Si è scritta da sola. Scusa, da sola. Luigi. Luigi? No, io, ragazzi, la prima volta che sento. La tradi, invitati. No, lo sai che pensai che l'ho fatta io? È la BBC che colpisce. Cominciamo bene. Va bene, io guarda, proprio perché è fine stagione, perché poi alla fine ci vogliamo tutti bene, perché comunque è stato bravo, diciamo, anzi poi col duetto, anche con ritmo, cioè si sono incastrati anche bene, io ti do un bel 9. Campioni del mondo. Io invece vorrei fare una precipitazione, perché voglio fare una precipitazione perché voglio fare un totale dei voti di tutte quante le prestazioni fatte e ti do un bel 15. Ma lo sai perché? Poi dividi. Do 8 a Sasu per la sua prestazione su chi si protegge dalle forze del male, e il resto poi se lo divide tranquillamente esterno. Poi è Bersani, so, praticamente quello che dice, chi si diventa che si protegge dalle forze del male. Luigi, io non riesco a farlo. Io, se fosse un esame universitario, darei un 29. Bingo. Sì. Ma se invece da 1 a 10? 29 su 100. Che è cambiato le regole scolastiche. Su 10 non lo saprei esprimere, perché 29 mi sa più di bello. Però mancava quel piccolo accorgimento, tipo videogiochi. La prima volta ho detto con l'ho chiuso videogiochi. E l'altra invece è più aperta, videogiochi. Allora si sta trasformando. Un problema di. Sì, infatti, dovete capire che le mie vocali sono un po'. Quindi vedete, cioè, ho fatto proprio l'assistente del professore Stronzo, allora, quindi 29 vuol dire proprio è una sorta di 9.98, diciamo. Esatto. Non rifiuto. Allora, anche perché stiamo parlando di doppiaggio, quindi l'addizione è fondamentale in questa puntata. C'ha ragione. Possiamo criticare gli altri puntali di contro e poi andiamo a leggere un'introduzione da cani. Quindi quello, è giusto che un'ultima pronuncia in tedesco. Sentiamo Giuseppe. Allora, io invece, per cambiare ancora scala e metrica, ti do come voto il voto Francesco Pannofino in una scala da Pietro Ubaldi a Luca Ward. Ok? Quindi è un voto di mezzo. Sì, è bello alto. Francesco Pannofino è bravo come doppiatore. Sì, Pannolino. Sì, no. Pannolino. Grazie, quindi, salvo, devo dire quindi, che quindi puoi tranquillamente andare a settembre senza dover fare i compiti per le vacanze. Bene, ottimo. Salvo, sempre buono, mi vuole bene. Stefano, quindi, sì. Diciamo una cosa, che mentre che le altre puntate di Dietrologia Videoludica comunque affrontano un tema e cercano di analizzarlo da vari punti di vista, di solito alcuni dicono anche con spunti anche abbastanza originali rispetto a quelli che sono i podcast. Pensate un po' agli altri podcast. Esatto, pensiamo stanno messi l'altro. In realtà questa volta noi non facciamo una cosa, diciamo, ci omologhiamo un po' più a un discorso di flusso, nel senso che abbiamo aperto, anzi Marco ha aperto un sondaggio sulla pagina Facebook di Idrologia Videoludica, che ha avuto poi tra l'altro un signor successo, c'era gente che bestemmiava, che voglio rispondere anche io, perché poi sì, c'era quel gioco, quello là brutto, quel doppiaggio lì, e poi si incazzavano perché se lo ricordavano di averlo giocato, chiaramente. Quindi che è successo? Che praticamente poi alla fine questo sondaggio è diventato qualcosa di più, è diventato una sorta di flusso di coscienza dove la gente ha praticamente elencato tutta una serie di videogiochi, gli utenti ovviamente, che ringraziamo tantissimo, grazie utenti, per la partecipazione. Ci siamo scordati di segnare chi ha scritto cosa, ma alla fine tanto voi vi riconoscete, poi insomma ci volete bene uguale. Tu sai che tu sai che sei stato tu a scrivere quella cosa, sei stato tu a votare, bravo, perfetto, esatto. E quindi che cosa è successo? È successo che noi abbiamo raccolto praticamente tutti questi questi elementi, insomma, che li commenteremo senza stare a fare un discorso sul come è fatto il doppiaggio, questioni tecniche, roba del genere. Insomma, cercheremo di farci sopra due risate, perché chiaramente alcune cose le faremo ascoltare, alcune cose le commenteremo, e poi questa, tanto mettiamo tutto nelle note, esatto, poi tutti gli link li troverete nelle note, quindi ovviamente vi potrete poi, chi non ha avuto la fortuna, l'opportunità di ascoltare certe perle, insomma, sicuramente non potete perdervele. E ovviamente non sono tutti pessimi doppiaggi, alcuni invece abbiamo cercato di selezionare quelli che sono secondo noi i migliori o tra i migliori che noi ricordiamo come doppiaggi, anche se magari qualcosa ci è sfuggito, perché comunque negli ultimi anni, in maniera particolare, diciamo, insomma, che la qualità tecnica e due spicci in più ci rimettono, esatto, un po' di professionalità nei team di doppiaggio, anche perché da quello che ho capito qui in realtà erano gli stessi team di doppiaggio che lo facevano in inglese e lo facevano pure in italiano molto spesso, sì. Quindi se erano inglesi, il problema è come abbiamo visto nell'intro, post intro, se erano i giapponesi a farlo in italiano, perché insomma, allora, evitando il discorso dei voti, quanti voti o via dicendo, io inizierei da Heavy Rain. Lo vogliamo sentire un attimo perché abbiamo scelto questa cosa? Sì. Ok. Jason. Jason. Jason, non dovresti allontanarti troppo, lo sai. C'è troppa gente in questo. Ti prego, papà, me lo compri. Mi piacerebbe averne uno. Ti prego, papà, dai. Ok, compriamo un palloncino. Forte! Ciao, campione. Come ti chiami? Jason. E che palloncino vuoi, Jason? Quello rosso. Ecco a te. Fanno $2, signore. Jason, aspettami. Aspetta papà, piccolo. C'è troppa gente qui. Tenga il resto. È impossibile provare un paio di scarpe con questa ressa. Dov'è Jason? Era qui un secondo fa, gli ho preso un palloncino, mi sono girato e non c'era più. Non c'era più? Che significa non c'era più? Resta qui. Vado a cercarlo. Torno subito. Jason! Allora, Heavy Rain, avete sentito insomma questo pezzo del protagonista, no? Che Ethan Mars, ovviamente, che era doppiato da Pino Insegno. Io posso dire una cosa subito al volo, so perché, cioè, alla fine mi faceva ridere, perché in realtà la caratteristica di questo gioco era questa specie di atmosfera molto molto cupa, molto c'era questo rapporto con i tuoi sensi di colpa, con quello che insomma cercava di giocare con la tua psicologia, e quindi c'aveva un'atmosfera, una profondità abbastanza particolare, fino a che ovviamente non va tutto in bacca. E il doppiaggio di Pino Insegno, che è un grande doppiatore, che bisogna riconoscere, insomma, che è tra i grandi doppiatori in Italia, secondo me è un doppiaggio inappropriato in generale. E in particolare sto pezzo, quando Jason! Che ne pensate? Jason! Perché secondo me Pino Insegno l'ha presa un po' sotto gamba sto doppiaggio. Ha doppiato qualche altra cosa Pino Insegno? Dei videogiochi? Sì. Dei videogiochi non lo so, sai? Dei videogiochi no, dei film è la voce di Aragorn. Sì, anche di Django, insomma. Quindi comunque alla fine dei doppiaggi è probabilmente è un'esperienza talmente nuova che non ci si è ritrovato. Ha doppiato un personaggio di World of Warcraft. Della versione italiana. Jason. Prego, dici di Jason. No, più che altro i doppiaggi solitamente vengono, un tempo venivano effettuati con una tecnologia molto scarsa dal punto di vista dell'animazione facciale, molto quasi spesso non c'era la controparte visiva, quindi praticamente la gente doveva interpretare proprio le frasi. Se ci fate caso, i Viren ovviamente molto interpretabili, secondo me avranno dato Lila Suoni avrà dato totalmente l'immagine oltre alle foto eccetera e tutto, e quindi la sincronizzazione labiale doveva esserci. Infatti non ha sbagliato Pino Insegno a interpretare Ethan Mars fino a quel momento. Voi siete fermati solo su Jason, non a caso, perché non era una diciamo scena che secondo me lui aveva sotto mano. Lui era un'interazione decontestualizzata praticamente. Sì, lui era girato di spalle fondamentalmente, sta camminando in un centro commerciale e mi sembra che sia l'unica scena in quell'atto in cui non si vede il labiale, non si vede nulla. Quindi secondo me non aveva nemmeno idea di come si aveva detto butta lì un Jason, vai, sta chiamando il figlio, fanne 4-5 di registrazione e vai. Sicuramente, però insomma, se gli avranno detto guarda che si è perso il figlio, dai un po' d'enfasi. Ma voi lo sapete, no? Cioè, nel senso, Giuseppe, tu mi confermi che prima addirittura davano i testi e davano la durata della frase. Sì, l'esatta lunghezza temporale del file. Perché poi davano, esatto, dovevano sostituirlo. Tant'è che infatti tuttora a volte non viene rispettata e ci ritroviamo in alcuni casi anche di titoli che vedremo più avanti con frasi proprio troncate o sovrapposte. O imprecazioni addirittura. Sì, imprecazioni vedremo dopo. C'è un gioco in particolare di questo che legge a un certo punto, ecco, cazzo, ho sbagliato, è tutto nel gioco poi chiaramente, no? Ma la cosa bella è che poi ovviamente migliorando i team ovviamente di doppiaggio sono migliorate anche le tecniche, riomologandosi un po' a quello del cinema. Ma io mi ricordo e vi racconto questo aneddoto che una volta andando, forse l'ho già raccontata da qualche parte, andando da Per Gioco, che erano sti negozi, questa catena di negozi di videogiochi, c'erano insomma una quindicina d'anni fa. E, si parlava proprio del, era l'epoca di Day of the Tentacle, e c'era, ho incontrato dentro il nostro negozio un ragazzo che era andato lì perché praticamente la CTO gli aveva promesso delle videocassette relative a Day of the Tentacle, perché dovevano impostare il doppiaggio, quindi loro dovevano vedere qualche animazione, ma qualche animazione in realtà, poi tutto il resto l'avrebbero lavorato sui file audio. Sì. Poi ovviamente il doppiaggio, questo è il macello, questo è il casino, questo è esatto, non c'era assolutamente nessuna professionalità dal punto di vista del doppiatore, neanche come figura. Beh, comunque poi dirò una cosa, voi potete esaminare tutte quante le proposte dei nostri utenti. Poi, ho scritto una cosina, però la leggo sul doppiaggio. Ok, tu Stefano, Jason. Non ci ha mai giocato, mi sa tu. Io Viren lo conosco, non ho una PS3, quindi non ci ho mai giocato. Ho visto il filmato e effettivamente sì, ma mi sembra strano che comunque un doppiatore così magari l'ha fatto proprio in un momento in cui gli hanno detto ascolta, devi leggere questa parte qui, punto. Ma io sto a bagno, Jason. In realtà secondo me lui è comunque fuori corda, secondo me, su tutto il gioco lui. A differenza degli altri doppiatori, a parte quelli femminili, cioè per esempio la giornalista, insomma, Madison, non è un doppiaggio che mi ha fatto particolarmente impazzire, ma il resto del doppiaggio in generale è un buon doppiaggio ed è un grande doppiatore anche lui, ma secondo me è proprio fuori corda rispetto al personaggio, proprio perché secondo me lui non ha proprio interpretato, nonostante che poi fa anche una buona prova, perché comunque si sente proprio la caratura, la modulazione della voce del grande attore, cioè nel senso nessuno lo mette in discussione, però c'è qualcosa che non stona, che m'ha stonato, sì, forse stona. Non era lui il personaggio adatto per quel tipo di personaggio lì. Poi sì, dopo un giorno mi piacerebbe fare una puntata su Xavier Renner, perché ci sono delle cose da dire che veramente lui tutto acciaccato e sbruciacchiato, vabbè, trombiamo. C'è sempre questa cosa che mi è rimasta impressa, insomma. Allora, Stefano, andiamo al secondo gioco. Sì, il secondo gioco è Nocturne. Ed è gioco ed è stato molto ricercato nel nostro. Fallo parlare però ogni tanto. Vabbè, no, un gioco importante per noi perché dà anche il titolo all'episodio, tra l'altro. Ricordiamo che questo gioco uscì ai tempi solo per piattaforma PC Windows e distribuito e quindi localizzato da noi da Ci Diverte. Al gioco ti converte, aggiungerei. Come dicevo, non so perché mi ricordi queste puttanate, non le cose utili nella mia vita, però. Una delle tante catene di distribuzione ai tempi. Ok, che cosa è successo? Lo sceriffo di Red Eye nel Texas ha inoltrato una strana richiesta alle autorità di Chamford. La polizia di Chamford l'ha intesa come una richiesta di assistenza medica, supponendo che si tratti di un'epidemia di una malattia esantematica sconosciuta. Chamford ha mandato due dottori e pensato che si tratti di una lieve affezione esantematica provocata da un fungo o di malattia simile. Noi invece sospettiamo che le allusioni a zombie e mostri non siano solo invenzioni di un poliziotto isterico. I dottori di Chamford hanno inoltrato un rapporto dopo aver trascorso un giorno nella cittadina, perciò noi abbiamo deciso di mandare i nostri dottori, Scott Dazzle e Jared Hyde. Ci verrà a prendere alla stazione ferroviaria. Perché sei così nervoso? Ho paura che siamo in grave pericolo. Essere in grave pericolo fa parte del nostro lavoro. Penso che qualcuno mi stia pedinando. Chi? Non so, è questo che mi spaventa. In genere riesco a percepire i pensieri di chiunque concentri i suoi pensieri su di me, ma per ora non c'è nessuno sul treno che ha manifestato alcuna ostilità nei miei confronti, nemmeno a livello di pensiero. Eppure sento la collera che è rivolta verso di me. Mi ha martellato il cervello da quando abbiamo lasciato la Virginia. Non sai chi sia, da dove provenga. No, sento solo una pressione tutto intorno a me. Non so da dove o da chi provenga. Ho trovato questo nel mio bagaglio. Per crimini perpetrati contro la mia gente. La tua gente sarà distrutta. Che cosa diavolo significa? Non ne ho idea. A che gente si riferisce? Non riesco a pensare a persone. Ma noi abbiamo distrutto intere civiltà di mostri, vampiri, lupi mannari, mutanti. Può darsi che un superstite di uno dei nostri progetti orroricidi voglia vendicarsi. Ah, domanda. No, io però mi domando una cosa, no? Perché è affascinante il fatto che tanto tempo fa, quando ancora non era molto uso, insomma, sta cosa dei doppiaggi, i doppiaggi venivano fatti dalle case di produzione che volevano ovviamente spingere il loro proprio prodotto all'interno di un paese, tipo, che ne so, Sony, che voleva ovviamente far circolare la PlayStation 1, che ne so, faceva doppiare tipo Metal Gear, poi dopo ne parleremo. Ah, chiaramente, ne parliamo sicuramente. Ne parliamo ovviamente. Ecco, come Microsoft ha fatto doppiare giochi come Blue Dragon, sempre ne parleremo, e Last Odyssey, che altrimenti non sarebbero mai stati doppiati, no? Nel senso, poi ovviamente ci sono invece le grandi software house che si possono permettere di fare doppiaggi, che poi dopo è diventato pian piano sempre più un'abitudine, ma allora non era così. Quindi quando tu compravi il gioco e c'era scritto completamente in italiano, cioè, bello, andavi a infilare e sentivi se sosserie, Giuseppe, confermami, eri contento lo stesso. Ti facendo bene, sì. Vai. Cioè, nel senso. Sì, nel senso che comunque solitamente ci avevi speso soldi, quindi dovevi comunque portarla a compimento. E un po' potevi comunque anche, diciamo, tapparti un po' le orecchie o comunque cercare di andare avanti. Dice, a Caval Donato non si, esatto, guarda in bocca, insomma, c'è sta questa cosa, ce la facciamo andare bene. Insomma. Più che altro il problema era quando il gioco puntava molto anche sull'atmosfera, perché fin quando, diciamo, questi doppiaggi, che poi nel tempo sono cominciati a esserci anche in giochi meno dall'aspetto meno narrativo, che possono essere appunto dei platform, eccetera, ma, insomma, che te ne frega della frase del dialogo durante la scenetta di intermezzo, no? Poi tutto il resto del gameplay, insomma, è già tanto se il protagonista fa un urlo quando magari viene colpito, no? Ma invece in giochi tipo appunto le avventure grafiche, o comunque quelle dove appunto c'era predominante la parte narrativa, la cosa un po' ti spezzava l'immersività del gioco, l'immersione del gioco, no? Sì, beh, in effetti, no, questo, no, scusate, ma stavo ancora continuando a vedere. Ma tu Luigi Nocturne, sì, il suo fantastico doppiaggio, te lo ricordi? Sì, sì, sì. E io l'ho, allora, giocato. Io penso che innanzitutto noi italiani, di una certa sudditanza nei confronti delle produzioni estere, perché non abbiamo una forte industria qua, non l'abbiamo mai avuta qui all'interno. Allora ecco che quando arriva un prodotto, già ringrazi il cielo che sia arrivato in Italia sano e salvo, ci metti anche il doppiaggio, come dire, oh, siamo stati considerati, e quindi te ne freghi di come avveniva il doppiaggio all'interno. Questo tempo fa, ovviamente, prima che ci fosse tutta la distribuzione digitale, i mercati fossero così aperti all'industria del videogioco. E quindi già c'è questa sudditanza che ti faceva dire: intanto ce l'ho il gioco e ci capisco qualcosa. Non è più plausibile una cosa del genere. Ai giorni nostri, quando anche un bambino gli si fa fare corsi di inglese e comprende perfettamente, dico, almeno i primi dettami della lingua, quindi figurati quando ti trovi davanti a un videogioco che ci hai cacciato soldi, come dice Peppe, vuoi avere il top e il meglio. Riguardo a Nocturne, volevi domandarmi qualcosa in preciso? Se lo ricordavi, se l'impressione, cioè nel senso, oggi magari, ecco, allora magari ti faceva meno impressione, perché come dici te, no? Nel senso, era talmente, quasi ringraziavi, no? Il fatto di, sì, di averlo, che alla fine ti piaceva uguale, perché comunque sì, dice, mazzo che schifo, però vabbè, in italiano è figo. Non sono mai stato un giocatore su PC, quindi l'ho visto grazie alle indicazioni vostre degli utenti, non so chi ha postato quel video in particolare, però immagino che al tempo fosse la voce dello straniero, del protagonista, è bella, tenebrosa, carina, senza emotività, cioè no, poi piatto. Un discorso lo facciamo a parte sulle emotività. Stavo pensando più che altro quanto è straniante il tutto, cioè se fate caso quello, sì, già è un gioco delle atmosfere lovecraftiane, sì, ci metti anche una voce così straniante, avulsa da ogni contesto, crei davvero un'esperienza che distopica, che ti fa sentire, sì, se fosse voluto, però. Ah no, certo, cioè, se fosse la scelta artistica, dico ok, lo apprezzerei anche, no? No, no. Poi scusate se mi intrometto, ma in quel periodo, stiamo parlando di quello di Nocturne, quello appunto delle localizzazioni soprattutto su PC, per quei formati, perché solitamente era il CD, già aveva preso il CD-ROM, aveva preso piene, ma nonostante questo in molti giochi non era ancora possibile, a differenza di oggi, selezionare eventuali altre lingue, quindi o il gioco comprato lo continuavi a giocare in italiano, te lo devi giocare, esatto, in italiano, l'abbiamo doppiato, te lo, esatto, giochi maledetto in italiano. No, ma perché il DVD non è che può da contenere tutte quante le lingue, il CD, no, il DVD magari, ah, il CD, poi quando sì, il CD all'epoca. Sì. Cioè non è la stessa cosa di oggi, per esempio del Blu-ray per PlayStation, che ovviamente solitamente ti basta cambiare l'impostazione della lingua della DVD, console. Esatto. Ma a Stefano, che non gliene frega un cazzo di questa conversazione. Voi i vostri CD e i vostri DVD. O anche pensate quei giochi che a volte, per esempio, avevano la possibilità, a secondo delle capacità della macchina, di avere il doppiaggio, per esempio, sempre ritornando alle avventure grafiche, il doppiaggio e il testo anche scritto. Alcuni giochi in realtà non ti consentivano di avere entrambe le cose, quindi o switchavi solo sul testo scritto senza sentirti niente, oppure ti te lo giocavi con quella voce, senza vedere le scritte. Prosimo, ma la facciamo, sì, sentire o lo commentiamo soltanto? No, l'abbiamo già fatto sentire. Esatto. Tu non te ne sei accorto. C'è la TBC che mi sta, TBC metale che mi sta colpendo. Esatto, ma è contagiosa. Ma adesso facciamo sentire il prossimo. Però aspettate, io prima di passare al prossimo, vi consiglio di andare sulle note. Tanto non gliene frega un cazzo. No, io Stefano sta contando i milioni che ha guadagnato oggi. Ma che niente. Allora, noi praticamente vi consigliamo di andare a vedervi il link sulle note, perché tra l'altro, se nei primi minuti, subito dopo che c'è la battuta del Monkey, si salverà delle forze del male, vedrete anche un simpatico segretaria. Anche un simpatico bug in cui il personaggio principale si incastra dentro, cioè scusate, il personaggio che accompagna lo straniero si incastra sulla porta bloccando il gioco, ed è bellissimo, quindi vedetevelo, perché già questo vi fa capire, fa dire sempre, esatto, un po' alla Ferretti, ammazza quanta monnezza abbiamo giocato. Stefano, volevi dire qualcosa? Io volevo dire, cioè volevo premettere che tendenzialmente i giochi cerco di giocarli in lingua originale con i sottotitoli. Ma questo da quando è diventato amico, perché tu non capisci scelte l'italiano. No, ma che cazzo, perché è un intellettuale, perché non capisci l'italiano. Lui, no, perché vedendo leggere, soprattutto cosa viene fuori col doppiaggio, insomma. Cioè, mo adesso io posso dire, allora anche io apprezzo molto vedere alcune cose in lingua originale o rivederle, sì, in lingua originale. Tu non sai l'inglese, diverso. No, tua sorella magari. Però lei non lo sa molto. Lei lo sa sicuramente. No, beh, a 12 anni non è molto perché pratico. A 12 anni non lo posso avere l'inglese. Sì, vabbè, ma non bene quanto... Detto questo... uno di 13. Detto questo... Cioè, nel senso, non è che adesso noi stiamo parlando di doppiaggi ridicoli, o a volte ci sono stati anche a livello cinematografico magari degli adattamenti che potevano essere discutibili. Ma non è che mo adesso facciamo la critica al doppiaggio, che rimane comunque, cioè, voi dite, uno dei migliori doppiaggi che io abbia mai sentito girando il mondo, perché io sono andato veramente un po' dappertutto e ho sentito delle cose che varcavano i confini dell'obbrobrioso, laddove invece in realtà c'erano proprio nazioni che dicono: no, noi non siamo capaci, patte schiaffo direttamente in sottotitolo, come è capitato in Lituania, insomma. Cioè. No, ma per carità, dipende dai doppiatori, dai doppiaggi, da chi c'è dietro. Valuto caso per caso. Ecco. Anche perché potevano capitarci come i russi, il tizio, attenzione, adesso sta colpendo con la spada. Sì, esatto. Il personaggio, cioè, l'unico sono ferito a morte. Sì, esatto, l'unico doppiatore che doppia peggio, tutte le voci. Tutte quattro. Esatto, uomini, donne, roba genere, cioè questo qua dice: I love you, hai nettrine, mettiate muoti adesso, nettrine, voglio. Io ricorderò sempre un episodio di Holly e Benji visto al satellite, doppiato da una TV polacca. Doppiato da un solo tizio che faceva anche la voce della bambina amica che andava a tifare. E quindi c'era lì, così, così. No, era preoccupante. Quindi, per carità, lunga vita al doppiaggio italiano, dipende dai casi, dipende dalle poi comunque questa è la puntata sui brutti doppiaggi, non puoi venire qui e dire: ah, però io tanti giochi mi gioco li ho giocati in italiano e i doppiaggi erano belli, altri però tendenzialmente preferisco mantenere. Ti faccio un esempio dei giochi in giapponese. A volte sono talmente malato che mi metto i sottotitoli in inglese o in italiano, se disponibili, e il doppiaggio in giapponese. Vabbè, ma quello ci può anche avere un senso. Ok, ma per dire, cioè, per una questione di originalità della produzione, non tanto per una questione di per altri motivi, è solo una, come si dice, una fissazione mia, più che altro. Sei un feticista, diciamo, sì, sei un feticista linguistico. Per tante cose, anche ogni tanto anche per questo. No, un'ultima cosa la posso dire? No, a proposito, prego, di quello che aveva detto comunque Stefano, aveva sollevato una cosa interessante. Aveva detto, quando aveva parlato a proposito del polacco che faceva le voci di tutte, però notiamo che molti di questi doppiaggi che andremo via vedendo erano tre doppiatori. Puntata, esatto, i doppiatori sono non solo all'interno dello stesso videogioco, ma più o meno le voci le sentivi anche in altri videogiochi, erano più o meno sempre lo stesso gruppo, un po' come succede anche per le voci dei cartoni animati, per intenderci. Sì, infatti, considerate pure che spesso c'erano tre doppiatori, che uomini per dire, che dovevano doppiare 18 personaggi nella stessa scena, e quindi attenzione, come stai tu? Come stai? Quindi immaginati anche la ridicolezza, anche quella. C'è un motivo con tutto questo, nel senso, non è che imponevano a tre persone di doppiare 18 persone, era semplicemente che siccome il doppiaggio in Italia è una professione, mentre altrove, sto parlando di America in particolare, non è a livello nostro, succede praticamente che, considerato un mestiere qui in Italia, le cifre richieste per un budget di introduzione sono esose, altissime, e allora si ripiegava su attori amatoriali con tutte le limitazioni che conosciamo. Non avevano l'immaginamento, amatoriali però pochi, cioè non è che andavano a coprire tutti, perché comunque perché si svendevano per pochissimi soldi fondamentalmente, però è anche la qualità del loro lavoro che era pessima. Infatti non ci tenevano affinché fossero ricordati come doppiatori, non gliene fregava proprio nulla, cioè, non ci ricordate, no, perché non erano attori fondamentalmente, quindi non lo facevano per professione. Si vede, insomma, si sente, anzi. Beh, no. Secondo me non erano, alcuni non erano neanche amatori, erano proprio gente, ma non neanche vivi, del non team, non neanche perché umani, c'è una che ti dice: mo chi si salverà dalle forze del male, non è un attore, cioè, capito, non è neanche un attore del teatro rionale, capito, cioè, nel senso, ma quella magari è la ragazza di quello che ha fatto girare: oh, vuoi registrare un attimo, sei mia cugina qua che sta passando, devi soltanto dire questa voce qua, salvezza. Bravo, sì può essere, anche no, ma è così, no, è così, magari ci ha guadagnato pure 50.000 lire, nel senso, ma magari. Secondo me l'ha fatto gratis pure. Sì. Vabbè, qui si fanno gesti in consumo. A questo punto, Assassin's Creed. Questo gioco m'è venuto a noia. Finitelo! E non risparmiate le donne! Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria, abilità! Fatti vedere! Come desideri! prendi, usa questa. Uccideteli! Uccideteli tutti! Vi ringrazio, messere. Tieni la spada, Ezio. Vi ho già visto altrove. Non mi riconosci? Sono io, Mario. Zio Mario? Ne è passato di tempo, troppo. Beppe, raccontaci cosa abbiamo ascoltato, dato che insomma avete poi Assassin's Creed in realtà complessivamente. No, il doppiaggio era comunque buono, aveva in realtà qualche piccola pecca. Quelli che ho in particolare linkato e che abbiamo sentito sono presi sia dal primo che dal secondo, dove c'è Altair, esatto, e dal secondo dove c'è Ezio, che Ezio era fatto un po' meglio, vuoi anche perché avevamo là il setting italico ovviamente. La cosa particolare del secondo in realtà che mi ha lasciato un po' perplesso è quando voi provate invece a sentirlo in originale, che perché schifo. Ovviamente in originale diventa sì, esatto, diventa a mo' di film di gangster americano, perché per l'americano è mafiosi, così, esatto, dove intercalano nel doppiaggio originale americano di Assassin's Creed 2 intercalano tutti all'interno di una frase in inglese, alcuni termini lasciano in italiano, ovviamente con la loro inflessione. Quindi ne viene fuori un mix che per loro è figo, eh? Quindi a questo punto lo facciamo, commentiamo questa cosa tramite Stefano Biggio, che l'ha giocato in lingua originale, perché lui è in lingua originale. No, Assassin's Creed è uno di quei giochi che io non ho giocato, ma cioè, o meglio, che ho visto giocare, perché non sono un particolare appassionato, ma mi non so perché mi piace, cioè mi piace vederlo. E l'ho giocato in italiano, infatti vi consiglio. E voyeurismo, cioè, proprio esatto. Tutto, sono una persona problematica. Mi ricordo appunto quando appare lo zio Mario nel secondo. Il famoso cameo a Super Mario. Quello è un capolavoro per quale io ho riso per decenni. Quello, e anche ricordo le frasi che dice Ezio in Soul Calibur per il picchiaduro, quando fa certe mosse dove parla in italiano, però lì è un inglese che parla, un americano che parla italiano, o cose prese dal... ma è quello il brutto, infatti, perché loro... dal film. Allora, loro ce l'hanno questa cosa... Scusa. Anche nelle serie televisive e nei film, gli americani hanno questo, che parte come un pregio, quello di voler ricostruire sempre, anche linguisticamente, quello che è la situazione reale, no? Che una volta non era così, era tutto molto artefatto, tutti parlavano la stessa lingua nel mondo praticamente. Adesso, se invece tu vedi, bene o male, quando si tratta di una scena in Francia parlano in francese, se è una scena in Giappone parlano in Giappone, se è una scena in Italia parlano in italiano. Il problema di fondo è che però loro non curano molto quell'aspetto, perché sempre per la concezione l'America è il centro del mondo, tutto il resto è provincia. Loro generalizzano molto, no? Chiaramente per quello che è ovviamente la loro esposizione del mondo, no? E quindi anche se loro mettono due o tre frasi contestualizzate a Firenze, se sono dette con lo slang sguecio newyorkese a broccolino, non gliene frega niente fondamentalmente. Cioè, non è che c'è una ricostruzione reale fonetica, cioè loro that's amor bast fasolo, capito? Cioè gli italiani. E quindi questa è un po' la cosa che in effetti dava fastidio di quel doppiaggio in inglese, che riportato in italiano secondo me è anche peggio, perché comunque tu senti un doppiaggio in italiano perfetto, dove ogni tanto si intercalano queste frasi che sono frasi tipicamente del dialetto fiorentino, che però sono così messe, sono decontestualizzate, no? Ma in realtà c'è un motivo, perché comunque l'Animus non traduce perfettamente tutto quanto, quindi ci sono alcune cose originali, e noi che siamo italiani magari lo sentiamo come una puttanata sta cosa, diciamo, ma che schifo, ti piace. Io l'avrei proprio evitata comunque. Lo so, però c'era proprio nell'originale, c'erano frasi come stai quando stai in Palestina, che ci sono frasi in arabo, e quello era, diciamo, il testo tra virgolette originario, cioè non è stato tradotto dall'Animus. Nel gioco c'era anche il riferimento, e che sentirlo in italiano ci sembra come uno che parla in dialetto e ci fa un po' schifo. Sembra però uno in realtà che non parla in dialetto con le frasi in dialetto, cioè sì, lo so, però purtroppo cioè, era proprio era voluta questa cosa. Luigi, tu che ne pensi? Innanzitutto scaricate Assassin's Creed 2 se avete il Live Gold, perché è gratuito. Pezzo dai torrent, Ma sì, abbattiamo tutte le pareti. Anche da lì è che è gratuito, però. Beh, per sì, sempre. Puoi mettere averlo su Xbox. Abbiamo preso il gettone da Sony a questo punto, Mass Effect. No, sì. Non nulla da dire. L'ho giocato con piacere in italiano. Contate che gli americani hanno un'idea. Ecco, dell'Italia vogliono trasmettere l'idea. Fondamentalmente, non il concetto di essere italiani. Hanno trasmesso una sorta di italianità, ma secondo la loro concezione, non la nostra. Ecco quindi che c'è questo aspetto caricaturale dove devono metterci per forza Mario, devono metterci diciamo la il fatto che siamo come si dice cacciaroni burini, anche se poi dopo è un po' fastidio, cioè nel senso il film a Parigi c'è la Torre Eiffel e la fisarmonica, a Roma c'è il Colosseo e il mandolino, cioè sì per intenderci è una semplificazione, perché comunque sono loro che so così, se no non capiscono, cioè, è vero comunque, se no non capiscono, cioè, senso, io ricordo quando ci fu tu metti Torre Eiffel, che ne so, è un formaggio, non capiscono, cioè, ma dove siamo? Quando ci fu la guerra nell'ex Jugoslavia, cioè facevano vedere i servizi sulla CNN e ti dicevano dove sta la Jugoslavia, no? E facevano i freccioni, loro hanno una cognizione dell'universo che dell'universo mondo che è quello che sta intorno a loro. Poi tutto è americano centrica, sì, ma per quello vi dico che noi ci siamo sentiti poi sempre grati quando qualcosa riguardava noi, ma qualcosa che riguardava noi molte volte è stato per concessione, per simpatia, come Benigni che vince l'Oscar per La vita è bella. Secondo voi l'ha vinto perché è un bel film, oppure perché alla fine ci sono stati gli americani che hanno liberato tutto, ha vinto il carro armato che era il premio finale, gli alleati? Cioè, pensiamoci a queste cose. Quindi io dico sempre bello, ok, però è una concessione che ci è stata fatta, non un tributo di merito che fa respirare le nostre terre, la nostra vita in maniera molto più disincantata e originale. Sì, anche perché i carri armati a Roma l'avevamo pagati i cari e li continuiamo a pagare, quindi ecco. Quindi dico soltanto questo, dico bello, però è sempre, come ripeto, una visione americana dell'Italia, e quindi anche il doppiaggio è stato caricaturizzato. Io non ho voluto ascoltare volutamente il doppiaggio inglese perché non mi sarebbe piaciuta l'inflessione poi di forzare ese auditore che è un italiano, perché deve parlare in inglese, tra l'altro, se ci pensate proprio a livello di concept. Fate la vostra traduzione, perché dovete giocare in America, ma la traduzione italiana dovrebbe essere quella principale, il labiale dovrebbe essere stato sincronizzato su quello italiano, presumo io, doveva essere così. No, perché comunque è sempre la cosa, cioè, è sempre la news degli mortacci loro, che praticamente traduce tutto quanto in lingua americana, quelle sono pretesti, sono cazzate. Ah sì, ma perché non è che si possono mettere a fare la localizzazione, ma che cazzo ne frega loro, giustamente. No, dico, per carità, sincronizzazione è tutto, ma presumo che il suo auditore parlasse fiorentino nel Risorgimento. Sì. Quindi cioè doveva parlare fiorentino risorgimentale, per essere coerente. Sì. Però vabbè, non è West America Bischero, cioè. No, infatti ci sono degli errori, però teoricamente è quello di riportare e semplificare anche la localizzazione in inglese. Certo. Sentiamo che ne pensa Giuseppe, perché poi andiamo al pezzo forte. No, io ho già dato su. Non è un pezzo forte. Cimentare. Io ci sta l'ha introdotto, ha ragione. Io fino a quando non ci dimentichiamo di respirare. Sentiamoci questa bene, perché questa non è storia, questa non è la peggio di tutti. No, è storia. No, assolutamente. Però è l'icona, forse, perché è storia. Però quanto ci è piaciuto ai suoi tempi, quanto ci è piaciuto. Ascoltiamocela, è Metal Gear Solid da PlayStation 1. La base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi lanceremo un VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia, Foxhound. I tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono 6 membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Psycho Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me? Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Che cosa c'è da dire? Altro esempio di gioco che ci sentivamo in qualche modo lusingati di avere in italiano, perché pensavamo, e in effetti lo è, fosse una grande produzione che meritasse un adattamento, una localizzazione nei vari paesi. Effettivamente l'abbiamo avuta, però non sapendo, molti di noi, immagino la maggior parte degli italiani, invece la qualità di quella americana. È tutt'altra cosa, che noi possiamo godere soltanto o comprando una versione del gioco NTSC, oppure con il remake per GameCube chiamato Metal Gear Solid Twin Snakes, che aveva il doppiaggio in rimasto originale, ovviamente in americano, e i sottotitoli in italiano, e quindi potremmo vedere che era tutta perché ricordiamo qualità. Che Snake in originale era doppiato da almeno fino a Metal Gear Solid 5, dove è cambiato il doppiatore, era doppiato da David Hayter. Sì. Che aveva fatto per esempio anche come screenplay Watchmen e anche altri film come Scorpion e King e X2, sì. Tanto per dare un'idea. Vai, torna Luigi, che ti ho interrotto, scusa. Ok, Peppe, ti sento molto male. Sì, infatti male, stiamo comunque. Perdendo. Sì. Mi sentite? Ok, sì. Perdendo, lo stiamo perdendo. Ok. Dicevo, torna Luigi. No, non ci siamo. Sì. Niente. No. Aspetta, CC di maldodestrina. Di epinedrina, dai, vai. Ah, ok, no, concludo dicendo che Metal Gear è un prodotto giapponese e se ascoltate il doppiaggio giapponese è fatto molto bene. Davvero è un doppiaggio di qualità, molto espressivo, tra l'altro, per quanto sia strano pensare all'espressività nella rigidezza dei giapponesi. Anche perché a me viene da dire una cosa che poi mi faccio odiare da tutti come al solito, è che a me sinceramente i doppiaggi giapponesi mi sembrano tutti uguali. Giapponesi per me sono tutti marocchini, quindi. Relativamente a Metal Gear Solid, non so se questa è una leggenda metropolitana, però io se ricordo bene, però il doppiaggio italiano non piacque a Kojima, tant'è che si alterò si alterò non poco. E poi mi pare che tutti i successivi Metal Gear fino ad ora, mi pare che poi non sono stati solo localizzati a livello di testi. Sì, se non sbaglio, non sono mai più stati ridoppiati. Cioè, abbiamo subito la punizione. Poi i giapponesi se la segnano, sì. 20-25 anni dopo, l'avevo scordato. Ancora Gundam non stiamo a pagare. Cioè, fanno vedere gli ultimi, ma i primi. No, vabbè, Stefano Bigiù. Stefano Rubigio, cosa volete da me? Dice no, qualcosa che è Metal Gear Solid. Chi siete? Io sono venuto qui soltanto perché aveva tempo da perdere per contare soldi. E quindi nel frattempo che ci ascolta, mi si è rotta la macchina, conta banconote. Quindi adesso devo fare a mano, purtroppo. No, io ho amato il doppiaggio di Metal Gear Solid. L'ho giocato a suo tempo 10 miliardi di milioni di milioni di miliardoni di volte. Secondo non me dire troppo non spesso è... dei numeri se lo perdi il conto, ricorda? Sì, è vero. Non l'ho scritto in un con la mia Mont Blanc in una Moleskine. No, secondo me non era fatto esageratamente male. Chiaramente aveva un po' di esagerazioni in certi punti, ma delle frasi celebri che io continuo a ripetere all'infinito. No, l'unica cosa che possiamo dire è che era più pulito da inflessioni rispetto a tanti altri. Quella non è recitazione, ragazzi. Però cioè, a me comunque facevano ridere le voci dei soldati, cosa che continuo a fare ogni tanto. Tipo, cos'è stato? Mi è sembrato qualcuno. a me soltanto il blip già mi faceva ridere. Usano le menti caotica. Il famoso estrai di Revolver Ocelot. È vero, estrai. Io sono rotto. Il ninja è fantastico. Frank Jäger. Quando stava perdendo la ragione, cominciò dalle testate per terra. Sì. Dice la medicina, urla. La medicina. Vedi, quelle in lingua originale era una figata, ad esempio. Ma forse però posso dire una cosa, che paradossalmente, forse qui ha ragione Stefano, noi abbiamo vissuto un'esperienza che probabilmente non sarebbe stata la stessa col doppiaggio in inglese. Cioè, nel senso, oggi ci ricordiamo alcune scene o alcune frasi che magari erano importanti anche nel linguaggio, cioè nella lingua inglese, che però non ci sarebbero rimaste meno impresse perché non ci hanno fatto ridere. Ma questa è la cosa pure dei film tradotti in italiano, che spesso frasi del tutto, diciamo, bypassabili in inglese, in italiano hanno un valore particolare. Secondo me è la stessa cosa. No, dai, sì. Potrebbe anche essere una cosa del genere, no? Che poi tra l'altro Metal Gear già c'aveva, è stato uno dei primi in maniera molto palese, i primi giochi dal sapore fortemente cinematografico, quindi cioè gli si può dare perdono un po' tutto, insomma. Ma no? E poi ricordo che i doppiatori italiani erano scritti quando venivano, apparivano per la prima volta, sì, i personaggi, i titoli iniziali, uno dei pochissimi casi, gli attori, così come si è sempre fatto nei videogiochi o nei film giapponesi di animazione, dove spesso al personaggio corrisponde, cioè fanno il nomina nel doppiatore, oltre che come se appunto, certo, come se fosse lui un attore, in realtà è il personaggio, ecco. Chiaramente no, come se fosse un attore che lo interpreta in un film. Sì, è vero, ed era forse il primo dove ho visto, mi ricordavo anche i nomi a memoria, guarda. Posso dire una cosa su questo aspetto? No, ok, sto scherzando. No, ti spiego, il fatto che abbiano messo il nome del doppiatore, e ripeto, non erano doppiatori professionisti, anche qui c'era il suo discorso che facevo prima, ed è soltanto perché la faceva la controparte inglese. Quindi praticamente loro, avendo il gioco in inglese, hanno detto: ah, questi qua mettono i nomi dei doppiatori come nomi dei personaggi sopra, allora lo facciamo anche in italiano. Ma loro lo facevano con una sagacia completamente differente il doppiaggio rispetto a come è stata fatta invece in Italia, e quindi andiamo a dare una sorta di legittimazione di virtù e di valore a quel doppiaggio, che non penso lo meriti completamente, o sbaglio? No, certamente, ma riflettiamo anche al giorno d'oggi, quante grandi produzioni AAA hanno ripresentato questa stessa cosa. Io non me ne ricordo. L'ultimo che ho giocato era Dead Space 3, e c'era forse Dead Space, sì, però aspetta, ma... no, però l'ho giocato in lingua originale. Aspetta, di giochi che hanno riportato sui titoli di testa, esatto, gli attori originali ce ne stanno parecchi che hanno riportato gli attori italiani, quelli italiani, quasi, esatto, nessuno. Quelli italiani forse, esatto. Assassin's Creed può essere, adesso non sono sicuro. Quindi, 100%. Non mi ricordo neanche che ci siano i titoli iniziali. No, alla fine nei credits c'era, ma io dicevo proprio come in Metal Gear Solid, come Metal Gear Solid. Non quando veniva introdotto il personaggio, esatto, no, adesso non ci devono mettere forza nei credits, perché sennò se li inculano, soprattutto quelli per i professionisti, perché scherzi. Ma secondo me il fatto di riportare questa cosa inusuale, i titoli iniziali dei personaggi, è dovuta all'aspirazione di Kojima, sì, di rappresentare il videogioco come un film. E voi sapete che la storia del film, sì, insegna, sì, che all'inizio c'erano i nomi dei personaggi all'inizio, del film. Allora lui ha voluto continuare questa tradizione anche per legittimare il discorso culturale del videogioco. Guarda, sto facendo un videogioco, ma guarda, a livello di produzione del film, guardate che scene, che inquadrature, guardate quanto parlano, ci metto anche il nome del personaggio, così vi stendo tutti, vi faccio capire chi comanda. Questa è una sorta di, secondo me, di velleità, perché che io mi ricordi non ma neanche oggi c'è questo gioco dei nomi iniziali, esatto, ai personaggi quando parlano. Cioè, vabbè, in inglese c'era qualcuno, andrei avanti. Forse Viren ce l'ha? No, Viren c'ha sempre i nomi degli attori originali. Originali. Però lì già c'è un motivo. Esatto, perché comunque prestano il volto e quindi è già, certo, diverso. Qui rientriamo proprio più una cosa più specificatamente cinematografica, dove ovviamente anche in Italia in un film comunque è il nome dell'attore quello che viene anche indicato, cioè il nome del maiocchi, doppiatore, insomma, viene messo dopo successivamente in solo ci mettono i soldi, quindi giustamente lo sfruttano il nome, lo mettono, no, in prima pagina. Non è una questione di sfruttamento, è proprio la legge, cioè nel senso sono proprio delle regole che a livello dei decimali che si utilizzano nel cinema, purtroppo. Poi sai, i sindacati americani su queste cose bastonano, insomma. E vabbè, chi è che presenta il prossimo? Che è un capolavoro. Se l'avessi saputo a suo tempo me lo sarei giocato. Sto gioco. Io che l'ho nominato. Esatto, l'hai proposto tu. Hai proposto Stefano. Io un gioco che mi fecero conoscere a suo tempo i miei cugini, che lo presero per la prima PlayStation. Ovvero ben 4 CD. 4 ricordati. CD, esatto. Grande gioco, ovvero Legend of Dragoon. Sentiamocelo. Eccolo. Sostanza, si tratta di un Final Fantasy con, esatto, parti di doppiaggio in italiano, soprattutto sui combattimenti. Un Japan RPG, diciamo, classico, sì, tradotto, ma proprio tutto, tutto quanto. Non solo i testi, cioè, okay, ovviamente come anche tutti i gridi di guerra. Come tutti, sì, i JRPG dell'epoca, sono praticamente completamente testuale, tranne Stefano, come abbiamo sentito, c'è, cioè, qualche biastima durante il combattimento, se non sbaglio, giusto? Sì, non detti con l'enfasi proprio che anche dovevano. Sì, esatto. L'intonazione era proprio Vulcano. Gente presa per strada, dice, dimmi Vulcano. No, non so se vi ricordate, c'era uno dei personaggi, quello viola, che era tipo una specie di maestro di arti marziali. Infatti, a differenza degli altri, non mi pare che usasse le armi, perché ognuno ovviamente aveva associato anche un'arma specifica, tipo il protagonista una spada a due mani, no? Questo qua tipo c'aveva alcuni colpi che praticamente erano troncati pure alla fine, quindi non arrivava neanche a pronunciarla tutta la frase. Erano troppo avanti per essere capiti, secondo me. Ma che anche in Giappone c'è questa cosa che quando dicono le frasi le troncano, come diceva anche Luca Casciola, quindi ma non sarà mica. Quindi ogni volta da questo effetto anche evoluto, insomma. Ah, ma allora quello è e finisce lì. È vero, però, è vero. Eppure io sono sicuro che in Giappone, io pure l'ho giocato la versione italica, però secondo me in giapponese davano innanzitutto una certa enfasi, perché lo sai che i giapponesi sono molto bravi quando devono fare gridi di guerra, incazzature varie. Sì, in realtà parlano normale, per questo, cioè, sì. Loro parlano normale, cioè non è che si incazzano. Buongiorno, come va? L'hanno detto. Quando saluto la vicina bestemmiano praticamente. No, ma tu immaginate, tu immagina questa scena, tutto buio, questa vaga luce argentea, i riflessi della luna sul mare, due silhouette che si avvicinano, un uomo e una donna, si abbracciano, si guardano e lui le dice candidamente: "Azzegherulo, amico tuo!" Ma non le dice così, scusa. E poi si bacia. Sei troppo anti-giapponese, Pizzi. Io sono noto ex otaku, quasi in pensione, quindi purtroppo non. Che sei? Un ex otaku quasi in pensione. Ok. E quindi questo gli che cosa? Otaku, che quelli... cosa non porta questa? Come dire, i fanboy dei cartoni, sì, animati, esatto. Le cose un po' nerd cartonesche, animesche, cose del genere. Che poi se ricordo, Stefano, dimmi se appunto la mia memoria non mi inganna, o la TBC, o sei la TBC in fase, esatto. No, esatto, in fase avanzata. Ma se non sbaglio, tubercolosi cerebrale, esatto, nei combattimenti non potevi disabilitare e skippare le voci e le animazioni dei colpi, quindi Vulcano è per quello che poi ti entrano in testa, capito? Sì, perché sì. Cioè le senti per 4 CD, alla fine qualcosa in testa ti rimane per tutta la vita. Lo diciamo per il pubblico che Giuseppe Saso è caduto, cioè nella conversazione Skype, e qualcuno ha fatto Saso! Poi lo sentirete probabilmente nei bloopers, che non ci saranno perché tanto non te lo fanno. No, non taglio niente. Nei bloopers. Vabbè, io direi che questo è un bel gioco, abbiamo perso anche in troppo tempo, andiamo. Sì. Non so se Luigi... È tornato, è qua. No, sì, certo. State parlando sempre di Legend of Dragoon. Sì. Sì. No, ho visto soltanto che me l'ero perso al tempo, non lo conoscevo, ho visto un po' di video. Manco io. Lo vendono nuovo su eBay a 270 euro. Mi coglioni di porco, però con la traduzione italiana, perché quella che pare. Devo sentire quei miei cugini, forse. Questa era, diciamo, la reazione che volevo aggiungere per dare un po' di colore alla puntata. Ma stai a dire sul serio oppure? No, sul serio. È un gioco raro, sì. Tanto che infatti non c'è neanche sul PSN Network. Ci sarà un motivo. C'è sempre la ragione. Però voglio dire, PlayStation 1? Insomma, si rimedia facile, insomma, la questione. Non aggiungiamo altro. Esatto. Sì. Ascoltiamoci. Invece, una cosa che ho tirato fuori io, perché ci sono particolarmente affezionato, una delle migliori prestazioni di Dario Argento il cartaio, penso. Quindi la sua, diciamo, performance auditiva, diciamo audio lesionante, per così dire, del dottor Kain in Dead Space. Clark, ho bisogno di parlarti. Mi chiamo Terence Kain, dottor Kain. Ascoltami, non c'è molto tempo. Se sei davvero in grado di riparare la navetta, potremmo usarla per qualcosa di più importante della fuga. Devi capire che le forze all'opera qui sono più grandi di quanto si possa pensare. Se te ne vai adesso, condannerai l'umanità. Il pianeta non si fermerà mai se non restituiremo il marchio. Non capisci? La Chiesa si sbaglia. È una trappola. Io ho visto. Ti prego, devi aiutarmi. Ok, comincio a dire una cosa. Questo è quando un nome fondamentalmente viene chiamato come specchietto per allodole, ed è una deriva che purtroppo abbiamo qui in Italia, per vendere un videogioco. Sì, ma c'era il bisogno? Cioè, questa è la domanda che... È questo che dico io. Il doppiaggio di Dead Space, ricordiamo, Dead Space ha vinto un sacco di Game Awards, ma veramente un sacco di premi. Per quanto riguarda l'audio, quindi l'audio ambientale ha una meravigliosa colonna sonora narrativa, perché è un vero e proprio storia narrata quella dell'audio di Dead Space, a prescindere dal doppiaggio, proprio come rumori ambientali, che secondo me è il 70 se non l'80% di tutto il succo della paura concentrata in quegli ambienti così malati e orrorifici. Ecco che praticamente il doppiaggio italiano, cioè il doppiaggio di Space segue la vecchia tradizione del protagonista muto, e quindi Isaac Clarke, che è il protagonista del videogioco, al contrario del 2 e del terzo, è completamente depersonalizzato, è una figura vuota, è silenziosa, emette soltanto dei grugniti e dei brutti suoni che psicologicamente ti conturbano quando si suoni, muove. Può essere qualsiasi cosa poi, Sì, nel senso, come si muove, come sbatte i piedi a terra, come si arranca, sì, è tremendo, e non dice nulla. farle, quindi è veramente un personaggio manichino, di quelli inquietanti. Quindi andare a caratterizzare con una voce questo gioco vuol dire andare a dare una personalità che contestualizza tutto quanto, dalla tua psicologia del personaggio fino alle azioni che devi fare. Molto dei Dead Space è narrato attraverso ciò che ti dicono di fare, ecco perché sei anche un manichino da questo punto di vista, ed è narrato tramite voce. Quando arriva appunto Dario Argento crolla totalmente l'ottimo di lavoro comunque dignitoso di doppiaggio che c'era stato, sia ambientale come suoni, sia quello verbale. Sì, anche perché la versione italiana non è una brutta. No, ma soprattutto io soprattutto mi chiedevo: va bene che ci mette la voce il doppiatore di Argento, ok. Però che doppiaggio? Che motivo c'era di farlo doppiare con l'inflessione romana? Per forza. Perché lui è così, ma lui così parla. Cioè. No, ma a parte questo, è proprio quel motivo. Cioè, è la mancanza non è che di più regista. Cioè, no, aspetta, la figlia, e dopo ne parleremo. Per quanto cagna possa essere, cagna maledetta, ma come diceva il nostro il grande René Ferretti, almeno comunque ci ha studiato per fare l'attrice, no? E quindi non è una buona attrice, ma è un'attrice. Lui non è neanche quello. Cioè, lui è un regista e che ha prestato per motivi di marketing la sua voce a un gioco perché comunque è collegato con il fattore orrore. Dove? Perché poi, cioè, nel senso, comunque il videogioco in Italia continua a essere comunque un fenomeno circoscritto. Non è certo Dario Argento con un brutto doppiaggio che. Cioè, sì, ma ti rendi conto la cosa aberrante, però, che c'è. Cioè, dove posso capire che a questo punto tutti gli altri avessero avuto anche delle altre inflessioni, che so, russo, inglese, tedesco, ma qua proprio nello spazio, in mezzo a tanta altra gente qualificata, tra virgolette, della spedizione, ti ritrovi poi questo scienziato così che ti parla in romano. Sì, ma allora il discorso è sempre di prodotto commerciale del videogioco. Allora, il distributore italiano ha detto: non vi preoccupate, lo spingiamo io a livello di marketing, dateci un po' di soldi che chiamiamo un bel doppiatore nostro, lo conoscete Dario Argento, quello che da voi ha ritoccato anche Zombie di Romero, mi scordate? Ah sì, grande Dario Argento, no, sì, ma poi conosciuto all'estero, cioè, non è che sta a fare un coglione, lo fanno arrivare lì 10 minuti, registra queste fasi qui assolutamente decontestualizzate, nel senso lui parlava a votamazza, sì, la vicella, dobbiamo correre. Carchi, ho bisogno di parlarti. Sai che c'è sta? C'ho un problema con il motore, mi sei rotto. Cioè. Stessa cosa lì, tutto mangiate quelle parole. Ed ecco, praticamente, abbiamo venduto, ci schiaffiamo bello perché la copertina di Space porta Dario Argento, partecipazione, bla bla bla, come vessillo di marketing. Ma qua il videogioco lo riduci ad una stregua di prodotto che devi smerciare e vendere. Quindi più ci ruota attorno nomi di richiamo, e meglio è. Io ripeto, mi stupì tantissimo quando uscì Call of Duty, se non sbaglio Modern Warfare 2, e dietro c'era Matteo Bittanti, che scriveva, che nessuno sa chi sia Matteo Bittanti, in Italia c'è scritto questo, finalmente un videogioco che ha, mi sembra, un'aura, un'apparenza di Colossal. La gente diceva: chi è Matteo Bittanti? Ma a vedere, però il distributore è andato a toccare qualcosa che è inusuale, che la gente magari non fa né caldo né freddo. Vabbè, però nell'ambito dei videogiochi, mo. Non è che posso capire nell'ambito generale. Sì, no, no, nell'ambito videogiochi non ci mancherebbe, però non penso che tutti i giocatori di Call of Duty conoscano Matteo Bittanti. È molto probabile che non lo conoscano, perché. Eh sì. Perciò mi è sembrato strano. Comunque sa questo Call of Duty, cioè nel senso Matteo Bittanti, sì. Ma qual è la tua gamer tag? Come in quale gilda giochi? Ma chi è Matteo Bittanti? No, comunque quello che volevo dirvi è proprio questo, io mi è dispiaciuto tantissimo, perché Video Space lo adoro come prodotto e come visione di gioco che avevano Visceral Games all'inizio, quando lo buttarono giù, nero su bianco, è rovinato in Italia da questa voce. L'ha rovinato. Luigi, ti devo spiegare, c'è un problema, Luigi. Purtroppo qua ci stanno alieni. Ci stanno i maccheroni alieni. Mi se vogliono mangiare, mi hanno messo la pagliata in culo. Ragazzi. La pagliata assassina. Io andrei a quello dopo, che tra l'altro mi dispiace. Posso dire che mi dispiace? Perché non tanto per questo gioco in sé, che comunque poteva. Cioè, nel senso, c'ha avuto un brutto doppiaggio, indubbiamente. Ma perché comunque nel frutto, insomma, della software house. Diciamo da una costola, diciamo così, un'emorragia di Square Enix, che prometteva, no? Prometteva, perché poi emorragia di Square Enix sembra le Square House, emorragia di Square House di una nuova studio diciamo, ai suoi secondi esordi, una nuova startup. E tra l'altro ci ha regalato due JRPG in stile classico, doppiati in italiano, che praticamente, a parte Legend of Dragoon. Legend of Dragoon, insomma, nel senso, sono praticamente dei casi unici, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cosa così. E stiamo parlando di Blue Dragon, noi ascoltiamo questo pezzo e capiamo un attimo il perché. Blue Dragon era il secondo gioco che io comprai per 360, quindi proprio non mi posso dimenticare, perché lo aspettavo, era insomma uno dei pochi ancora JRPG in arrivo su quella piattaforma, e devo dire che insomma ero tutto preso, perché comunque l'inizio è molto interessante, prima che si scateni quel full motion, no? Anche perché avevo all'inizio un po' giocato. Poi appena appunto arrivi a vederti questa scena e vedi che tutti parlano, le cose purtroppo precipitano, esatto, precipitano, ma veramente. E ti sei chiesto perché ho comprato una Xbox praticamente. Sì. Cosa che non succede invece con il suo successore, perché comunque lo Odyssey, che l'abbiamo citato poi successivamente, quindi vabbè, possiamo anche parlarne adesso volendo, perché io sì. Non so se Stefano e Mauro dimenticarti di respirare sono alla fine. Se Stefano e Luigi vogliono dire qualcosa su sto gioco, non so se neanche se l'avete giocato, insomma. Lascio campo a voi, che non ho giocato. Quindi a questo punto io direi di passare direttamente allo Lost Odyssey a questo punto, sì. Perché giustamente poi Giuseppe ci fa anche notare una cosa che vabbè, magari è una cosa che si è già detta in tanti altri podcast, però è giusto farlo notare. Sentiamo un attimo il pezzo. Spirito di Aleira a una prigione di solitudine e isolamento sempre crescenti. Cosa? Ascoltare Rosette. Lo sai, la pazzia lo stava divorando. Tu non avevi scelta se non quella di uccidere. Quando la tua lama gli ha trapassato il cuore, è stato come avere trapassato anche il tuo. No! Non l'ho ucciso io! Sei stato tu, non io! Non dargli ascolto. Tienilo fuori dalla tua mente. Che ne è dei tuoi ordini, tenente Arco? Non sono più la tua pedina. Moria che hai cancellato è tornata. Oh, davvero? Sei stato fu. Sapevi che perfino la morte non è nulla in confronto al dolore di non poter ricordare. Allora, Nestor Odyssey, che ovviamente viene successivamente, insomma, vabbè, diciamo complessivamente il doppiaggio. No, il doppiaggio era di ottima caratura, devo dire. È stato uno dei pochi giochi che sono riuscito a comprarmi su Xbox prima che si squagliasse due o tre volte, insomma, quindi... Non era quello che ti ha fatto proprio squagliare l'Xbox? Beh, penso di sì, forse sì, perché poi infatti è l'unico, è il gioco che non ho finito, mentre che... Ma non è che era squagliato durante una cutscene di Gongora, che ricordiamo è doppiato da Pietro Baldi? No, non me lo ricordo, sinceramente, se io so solo che un giorno la sono andata a riaccendere e non è... Perché peccato, perché invece il gioco mi sta a piacere, eravamo andati parecchio avanti. Poi infatti io non so come finisce questo gioco, mi piacerebbe... Alla fine lui muore. No, ma non ho manco... come immortale. Non ho manco trovato un let's play in italiano completo fino alla fine su YouTube da vedermi, perché dicevo, vabbè, tanto non lo finisco, almeno voglio vedere come finisce, insomma. Questo titolo fa sollevare, diciamo, una cosa particolare, appunto, che come ho già detto, c'è la voce di questo personaggio che è il cattivo principale, Gongora, che è doppiato da Pietro Baldi, perché non se lo ricordo, Pietro Baldi è molto, molto attivo, prolifico sia in campo di videogiochi, perché lo ricordiamo che sto per esempio anche in Skyrim, anche in Mass Effect, quasi dappertutto, tanto, esatto. Lui fondamentalmente è ormai anche un direttore di doppiaggio, quindi sì. Dirige anche gli altri e segue anche gli altri, e poi soprattutto era, in questo caso proprio di Lost Odyssey, era una voce completamente fuori luogo, anzi secondo me è proprio l'unica, perché immaginate appunto questa voce un po' caricaturale messa in un cattivo, e quando tipo scoppiava, per esempio, faceva la classica risata da cattivo, era una cosa un po' surreale. Sì, anche perché noi eravamo abituati da piccoli a sentirlo nei cartoni animati prevalentemente, quindi e c'ha questa voce così caratteristica che è da cartone animato e molto inflazionata, tra l'altro, che non gli puoi fare veramente un personaggio cattivo, no? Non sempre puoi fare. Cattivo che poi alla fine è caricaturale, perché comunque c'è la concezione, e questo alla fine è sto JRPG, anche lì come direttore di doppiaggio, come direttori di doppiaggio vanno, già beh, è come se fosse un cartone animato per loro, no? Quindi assimilano sta cosa, e secondo me lui non rovina l'esperienza complessiva del doppiaggio, se non fosse per il fatto che quando senti la sua voce dici basta, cioè stai veramente... Cioè, scusami, paradossalmente l'avrei a questo punto trovata più appropriata nel cattivo che però non faceva lui, ripeto, in Blue Dragon, perché Blue Dragon era molto più tipo cartone animato. Sì, forse sì. Ma lì c'è? No. Stranamente. No, che ricordi, no. Oppure faceva qualche personaggio veramente secondario. Questo è strano che Biggio non l'ha giocato. Non hai giocato a della Stodis? La Stodis sì, ma non in italiano. In lingua originale. Ma aspetta, forse Stefano, questo aveva il selettore delle lingue? Oppure ti beccavi per forza quella italiana? No, lui ha giocato in giapponese con i sottotitoli in sanscrito. No, l'ho giocato in giapponese con i sottotitoli in inglese. Perché non era una versione linguisticamente preparato. Non è che il fatto che sei nella confederazione elvetica sei esente o no, sei... il problema è che spesso non trovi i giochi doppiati, cioè anche sotto, a volte non è multi-five. Guarda, basta che fai la ricerca multi-seven, cioè, te lo trovi. Quello che sto dicendo non è che il fatto che sei nella confederazione elvetica significa che sei immune dalle leggi internazionali, oppure no, c'è l'estradizione, cioè, no. Che confederazione elvetica, siccome lui si riferisce a quel periodo quando stava in Italia, non è che forse è snobbato un po' la roba del continente, tra virgolette, dicevi, non la voglio sentire l'italiano. Ora solo i videogiochi in sardo. No, quello l'ho fatto, cioè l'ho sempre fatto, diciamo, tranne in certi casi quando non c'era internet, in cui non era possibile, ovviamente. O quando non c'erano cinema che trasmettevano film in lingua originale, roba così. Dipende poi dal film, ovviamente, o dal videogioco. Non ce l'hai con gli italiani, no, dal punto di vista di penisola? No, per carità. Ok, molti sardi invece so che sono... Beh, dipende dagli italiani, ovviamente. Se mi dici, se mi parli di Calderoli, magari ce l'ho, sì, di Berlusconi magari ce l'ho, sì, ce l'ho con lui, però per altre faccende, diciamo, potrebbe anche un caucaso, sì, cioè, non è questione di snobismo, era in questo, cioè, qui ad esempio è proprio una questione di o il gioco lo prendo da play.com e non è detto che sia, che ci sia l'italiano, mm-hmm, o se lo prendo qui fisicamente non è detto che ci sia, cioè devo stare attento che sia almeno in inglese, se no me lo becco in tedesco o in francese, e io sinceramente, sì, insomma, per quanto possa capire qualcosa, non ho voglia di giocarmi magari un gioco da 30 ore con il doppiaggio in tedesco e in francese, ecco. A questo punto preferisco, cioè mi metto quello in lingua originale, sono tranquillo, lo capisco, letto, cioè scritto e parlato, e insomma almeno ci passo il tempo tranquillamente. Più che altro per non rincoglionirmi, ecco, più di quanto già sono. Quindi mettiamo, allora, cercando di fissare un po' l'attenzione su magari in effetti le cose un po' più importanti. Quindi stai dicendo che io non sono importante? No, nel senso, esatto, che in effetti saltiamo un po' di cose, no? Per esempio, almeno torniamo su quello là che c'è dopo Blue Dragon. Alpha Prime. Quella è la perla, una delle perle, assieme a quello dell'introduzione. Che non tanto per il doppiaggio generale, ma per un particolare un personaggio. Vabbè, l'ascoltiamo prima. Sì. Porca puttana, this goddamn work. Bellini, I'm such a scumbag. Why didn't I learn this in school, cazzo? What about a consultation, maestro? I might like to try it. Another nutcase? Mutant, questo è un po' toccato. Bardium, help! Ah, vai via, va! Psst. So far I still haven't fired. You are normale? Bardium, no? Train up the spout, no? Yeah, intelligente. Hey, ascolta. Mutants, chicken, very, very cowardly. If someone screams at them properly, they sometimes get frightened and run. Capish? Yeah, sure. Try it? I saw it. Doors, there, come on. And what's behind those doors? An arsenal. Machine guns, cannons, lots and lots. Boom, boom, boom, boom. Thank you, fine thing. That'll come in handy. I must go down there, you see, underground. I'm looking for a guy, a certain Warren Reynolds. Ah, Warren, sì, lucky guy. È fortunato quello. This figone, always with him. An amazing lady, this Livia. Bella donna, very beautiful. What happened to her? Livia's in orbit. She's waiting until I find Warren and another spaceship. Porco zio, a ship? Here? Not at all, no ship. Not on our part. Porco zio, a ship? Porco zio, a ship? Livia said... Nonsense, no I'll ship I'll have to anywhere. Start by finding Warren. I can't wait to hear the nice things he has to tell me. No, not that way, scongiuro. Many, many mutants. Better to take lift and down. Nice and comfortable. Down floor and empty passageway. You know? Paolo no like shooting. Morbido. Uno body, due bodies, lots of bodies. Boom, bang, everywhere. Very nasty. Prefer Bellini to Tortellini. Porco zio. What's this now? Porco zio, we are not moving. Never mind. I am a guide. Nobody nowhere. Let's go proudly on. Shooting once more, and at me again. Ouch! Ah, they've killed me. I am it. My poor leg, completely dead. No, Paolo, go nowhere. Paolo is a cripple, disability pension, not well, ruined, sick. Io me ne frego. You can go alone, Arnold. How about you at least give me a map, Paolo the Cripple? Quante matte risate. Quante matte risate al personaggio di Paolo Bellini, il suo inglese maccheronico. Spiega. Posso fare una cosa io? Vai. Big guns, sì. Boom boom, chicken. Posso fare una cosa io? Allora, sì. Io secondo me questo tizio, sì, che non conosco, questo Bellini, voleva fare una cosa che diciamo in teoria è anche giusta, perché cioè voleva essere il personaggio italiano che nel gioco, nella storia, cerca di esprimersi in inglese per far capire al protagonista ciò che sta succedendo, ciò che deve essere fatto. E quindi giustamente questo personaggio, non conoscendo magari benissimo l'inglese, si esprime in italiano utilizzando frasi molto semplici in inglese, che ci sta. Il problema è che come viene fatto? Ma neanche io che leggo, mi metto a leggere un foglio scritto, riesco a far peggio, insomma, e non sono un doppiatore, non sono neanche il lettore. Io l'ho trovato calzante, l'ho trovato adeguato. No, ma infatti è calzante, è adeguato, è che proprio non c'è sta l'interpretazione, cioè, secondo me, cioè, ma come cerca poi pure di fare anche la spalla comica. A un certo punto dice: io Bellini preferisco i tortellini. Madonna, cioè, veramente. Poteva fare anche altre rime. Poi Poi c'è da dire comunque alla fine, poveretto, fa una brutta fine, come potete vedere anche in quel video. Beh, anche meritato, quindi... dire. Ma andiamo, sì, andiamo oltre. Aspetta. Andiamo oltre. No. Guarda, facciamo una cosa. Ci sono un po' di link. Allora, Jericho, per esempio. Jericho è da Mac Dog. Esatto, insomma, voglio dire, possiamo anche, sì, tranquillamente, cioè ve li guardate, sì, sì, perché insomma alla fine anche se per me Jericho Jericho è particolare, è veramente particolare, però schifo immondo, sì, è uno schifo immondo, ma secondo me lì è particolare, perché secondo me bisognerebbe anche parlarne, perché anche la storia è un po' particolare, cioè nel senso, il doppiaggio mischiato a una storia un po' particolare, insomma, diciamo. Però ecco, ve lo guardate un attimo. Io invece mi soffermerei, dato che abbiamo parlato del padre, parliamo anche della figlia. Tale figlia, e ascoltiamo un attimo il perché un gioco come Mirror's Edge in Italia è stato molto criticato, tranne Mirror's Edge. Edge vuol dire età. Edge vuol dire. Vabbè, io che ho detto? Un'altra cosa. Mirror's Edge, ok. Tranne da Stefano, che chiaramente l'avrà giocato in. Quindi è corretto, no, perché in turco con i sottotitoli in papuasico. In svizzero italiano, che è quello dove dicono tipo la meteo, tutte quelle parole strane. No, non l'ho giocato in italiano, comunque, scherzi a parte. Un tempo la città vibrava di energia, sporca, pericolosa, ma viva e magnifica. Ora non è più così. Il cambiamento è stato graduale. Molti non l'hanno visto, hanno chiuso gli occhi e l'hanno accettato. Hanno scelto una vita tranquilla, altri invece no. Coloro che si sono rifiutati di adeguarsi sono stati emarginati, criminalizzati. Sono i nostri clienti. Noi ci definiamo runner. Viviamo al confine fra la facciata scintillante e la realtà, il bordo dello specchio. Cerchiamo di stare alla larga dai guai e la polizia ci lascia in pace. I runner vedono la città in modo diverso. Noi vediamo il flusso. I tetti diventano percorsi e collegamenti, possibilità e vie di fuga. Il flusso è ciò che ci tiene in corsa, ciò che ci tiene in vita. Allora, Luigi, sì, noi abbiamo sta personaggio, Fate, sì, che è all'interno di un gioco che ha riscosso anche un certo successo, perché anche per la sua originalità, anche per la sua storia, con questa spettacolarità un po' cinematografica. E poi... Sì, allora praticamente, se ci fate caso, le produzioni di Mirror's Edge, così come quella di Dead Space, sono state distribuite da Electronic Arts, Electronic Arts ha avuto quindi il piacere di ospitare, mi sembra anche nello stesso periodo, tra l'altro. Sì, esatto, sono uscito nello stesso periodo, quasi in contemporanea. In contemporanea. Mm-hmm. Il padre e la figlia, come cartina al tornasole per misurare quanto fossero fichi questi videogiochi che si avvalevano di queste due personalità così strette, questa parentela così affiatata nel mondo del cinema. Quindi volevano dare una sorta di, ripeto, spettacolarizzazione all'evento del videogioco in sé. Tra l'altro non vi scordate che sulla copertina di Dead Space c'è scritto il gioco più terrificante e spettacolare dell'anno, firmato Dario Argento, quindi c'è anche una sorta di promozione che aveva fatto il gioco, che mi sembra però sulla copertina di Mirror's Edge, io ce l'ho qui davanti però ancora la prendo, non ci fosse questa sorta di lecchinaggio di marketing. Beh, non potevamo scrivere la cagna più terrificante. Beh sì, effettivamente no. Però che dire, sicuramente la voce di Dario Argento, quando l'ho ascoltata, aveva una sorta di... A me è sembrata molto inespressiva, se noti, in molti punti. Sì, a me non è che dispiaceva più di tanto, aveva quel tono disincantato, uh-huh, che permetteva un po' di non dare una personalità precisa a Faith, uh-huh, che effettivamente non ha una personalità precisa all'interno del gioco così marcata. Quindi non è che mi ha dato così fastidio come quella del padre, anche se aveva... Però c'è sempre c'è l'inflessione. Sì, l'inflessione di mangiarsi un po' le parole, di dare una sorta di... Quella è la droga. Poi conoscendola anche, cioè, avendola vista insomma svariate volte a Campo dei Fiori, insomma posso capire perché... Dove c'è, con l'eroe. Stavo Leroy Johnson, esatto. E solo che Leroy Johnson è andato avanti prima. Tanto è andato avanti. E... cosa bella è che c'è scritto, se voi prendete il DVD, io c'ho la versione Xbox, completamente in italiano c'è scritto dietro. Fa ridere perché hai il gioco in italiano con sulla scritta davanti con la voce di Sargento del ruolo di Faith, giri il quarto di copertina, nessun passo indietro e c'è tutta la spiegazione in italiano del gioco, e poi alla fine c'è un trafiletto scritto completamente in italiano. Che bisogno c'era di scriverlo o di rimarcarlo? Quindi evidentemente c'è proprio una volontà di italianizzare un prodotto che italiano non è, attraverso un esponente di richiamo per il marketing e la distribuzione nostrana. Quindi questo è il gioco che sta sotto questo doppiaggio di spessore, tra virgolette. Invece dicevamo che Stefano l'ha giocato in inglese. In turco, sì. E Sasu? No, io l'avevo giocato pure, infatti avevo notato questa mancanza proprio di espressione, che vabbè ci sta per il personaggio, che insomma è disilluso in questo futuro distopico, però è anche perché fondamentalmente è un personaggio come nel caso di Isaac che piloti tu in prima persona, quindi ci può anche stare che insomma molte scene durante le acrobazie insomma lei non parla, al massimo fa qualche mugugno, però alla fine non me l'ha fatta trovare così come protagonista, così carismatica. Esatto. Vabbè, era molto meglio a questo punto i mugni di dell'ultimo Tomb Raider. Tutta l'espressione di dolore di Lara. Era un malaccio, ma guarda che insomma, sì, secondo me vero. È stato doppiato bene, solo che lei poi è la stessa doppiatrice di Remember Me, cioè, sì, se non sbaglio. Sì, la voce è la stessa. Vabbè, mica noi vogliamo fare un dramma. Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, io innanzitutto ricordiamo che metteremo anche nelle note due grandi capisaldi, praticamente Half-Life 2 con svegli signor Ferri, che sembra un po' Geronto Gamers appena svegliati, che è bellissimo, infatti sul link lo vedrete. E poi abbiamo suggerito da un utente anche Driver 2, questo utente che di cui non sappiamo il nome perché non c'era, c'è soltanto il voto, faceva riferimento ai sudamericani, che però non abbiamo trovato nel contempo, però ho trovato un link con l'intro del gioco, e dovete soprattutto andarvi a vedere il pezzo in cui parlano dentro il bar, dentro il laboratorio dove stanno facendo l'autopsia. È veramente di un brutto unico, cioè veramente una cosa oscena. E più abbiamo Heaven Call of the King e Mech Commander, che pure questi saranno linkati nei... Heaven è quella perla dove c'è il classico finto inglese, non fare lo stupido, olio. sì, e anche Mac Commander ci sono delle persone che doppiano altre persone ma decontestualizzate, cioè uno che tu adesso ti metti su sul cesso, hai finito di fare la cacca e dici va tutto bene e poi lo mettono dentro, cioè nel video mentre uno sta parlando, infatti si è detto, cioè, va tutto bene così, cioè, cose completamente decontestualizzate, cioè bellissimo, tornando sempre probabilmente al discorso che facevamo all'inizio anche che con Luigi, cioè, fa il testo, legge, fa una cacca, te pare, ma puntiamo l'attenzione su un bellissimo gioco, che tra l'altro il gioco in sé era diciamo che ci sono anche altri due suggerimenti che però non abbiamo trovato. Sì, che Army Man Major Malfunction Atlantis 3 non abbiamo trovato video cosa, anzi se li trovate ci potete suggerire fatelo, però non abbiamo trovato una cippa, ma ci sono, c'è un capolavoro del traduzionismo, del doppismo italiano, The Moment of Silence. Nel link delle note ci saranno diversi giochi, tra cui altri, di cui qualcuno che abbiamo postato anche noi. Soffermatevi al minuto 9.04 in cui c'è il nostro bellissimo gioco di merda. L'orsacchiotto del ragazzo probabilmente sente già la sua mancanza. Vieni qui, orsacchiotto. Non puoi stare qui. Ti porterò dal tuo piccolo proprietario. Il mio accendino Zippo. Sempre utile. La cosa importante è il mio accendino Zippo e l'orsacchiotto. Siamo tornati dal video, il nostro tenero video. Torniamo a parlare. Parliamo. Saso, cosa ne pensi? Ma soprattutto Saso, che The Moment of Silence, che gioco è? Un'avventura grafica? Che è un'avventura grafica, esatto. Tra l'altro anche carina, non l'ho giocata ma ne ho sentito parlare benissimo. Sì, era ben fatta. Purtroppo il doppiaggio lasciava insomma intendere appunto come il discorso dell'accendino Zippo. Purtroppo ho detto non ho trovato video diretti di Let's Play italiani. Solitamente se ne trovano molti in tedesco, ma ovviamente non riguarda il tema della nostra puntata, quindi non va bene. Non era male come avventura, peccato appunto che lo rovinava molto il doppiaggio, a differenza invece di grandi avventure grafiche doppiate bene, come vuol dire, con i controcoglioni come Broken Sword o Last Express, per darti un'idea. E Stefano, tu invece l'hai giocato in Klingon, giusto? No, non l'ho proprio giocato. No, questo te la sei schifato. Mi manca la grande. Suppongo anche scusa. Stefano, insomma. Stefano, sì, ecco, Stefano è il mio amico Stefano. È finita la stagione di TN, ragazzi. Grazie a Dio. E questo TBC mentale che non ci lascia scampo, purtroppo. Senti. No, Luigi, ecco, non era Stefano, era Luigi. Cosa? No, dico. Di Moments of Silence, giusto? Sì, lo conosci, giocato? L'hai mai sentito? No, la prima. Ho letto il link adesso e l'ho aperto. L'hai schifato. Ho letto il libro. Hai fatto bene. Allora passiamo a uno dei miei favoriti. Ora direttamente potrete sentire l'intro dell'ultimo Mortal Kombat. Dai. Oh, Raiden, c'è qualcosa che non va. Strane visioni. L'amuleto. Non è niente, Liu Kang. Il torneo sta iniziando. Combattenti, io sono Shang Tsung. Nei giorni a venire ciascuno di voi combatterà. Alcuni sono qui per scelta. Altri sono stati portati dal destino. Ehi, bellezza. Johnny Cage. L'imperatore Shao Kahn felice volle per te. Fare suo il ma regno dai, della terra. Assalto massiccio. Ma quattro poteri. Il mimo ninja. Non ti dicono niente? Kano. Per questo fu Kano? Il torneo. In quello non c'ero. Prenderete parte al Mortal Kombat più importante della storia. Questo torneo, il decimo dopo 9 vittorie del regno esterno, deciderà il fato della terra. Se sconfiggerete tutti i vostri avversari, affronterete l'ultimo sfidante. Me. Quel vecchietto sarebbe la sfida finale. Potrebbero darmi subito la cintura, allora. Hanno delle cinture, giusto? Cosa? Ma come hai? L'apparenza può ingannare. Il primo combattente sarà il signor Cage. No, sì, direi che il video, l'audio non lascia molto spazio ai commenti. Penso che questi commenti sono immagini che si, anzi, voci, parole che si commentano da sole, purtroppo, perché non lo so, anche qui penso che abbiano preso uno, gli hanno detto: ascolta, sei un combattente smargiasso con gli occhiali da sole che sembra Duke Nukem, adesso mettiti, ci stai provando con una, fai delle voci, ma tipo quando era, non lo so, appunto per strada, stava mettendo una lavatrice. No, è abbastanza allucinante, c'è di peggio, secondo me, ma sì, sì, non è la cosa peggiore in assoluto, No, no, però ecco, è di però quelle cose divertenti. Sì, è di quelle cose divertenti, esatto, secondo me. In realtà ridicolizza l'intera campagna in singolo, perché praticamente tutti questi intermezzi erano presi dalla campagna in singolo, dove appunto c'era dietro una storia che praticamente saltava di volta in volta da un personaggio all'altro. Infatti gli scontri una volta li facevi con alcuni personaggi, una volta con altri. Sì, sì. C'è pure Kratos, sì, sì. E io sono Shang-Zu. Vabbè, Luigi? Su cosa, Mortal Kombat? Sì. Non saprei cosa dire, effettivamente. Sì, te l'ho detto, sono voci che si commentano da solo. Sì, sì. Cioè io lo inquadro, molto di quello che ho sentito, ci sono delle dinamiche precise sul perché fa così cagare il doppiaggio, insomma. E quindi non so aggiungere altro al commento. No, ma Luigi ha aggiunto poi, tra l'altro, nella chat comune nostra, insomma, di lavorazione, un link che penso aggiungeremo nelle note dell'episodio, anche se è molto più serio rispetto al contesto, insomma, che stiamo facendo, ma può essere illuminante. Luigi, di che link si tratta? Ce lo vuoi dire? Sì, allora praticamente vi ho linkato un articolo apparso su ludomedia.it, ed è un forum fondamentalmente in cui ci si può incontrare parlando appunto del media videogioco come momento di discussione, in questo caso culturale, sul doppiaggio. È molto interessante perché è un articolo che si basa su un'intervista fatta ai doppiatori di Fallout 3. Ma è doppiata in italiano? Sì, bene. Sì, sì, sì. I doppiatori italiani di Fallout 3. Quindi la cosa bella è che inquadrano il loro lavoro dal punto di vista sia dei problemi che incontrano durante la fase di doppiaggio, le assegnazioni del lavoro, sia quella che dicevo prima, come è considerato il doppiaggio in Italia rispetto all'estero e la figura professionale che si crea attorno a quella di doppiatore, quindi anche quella di attore e a quella di appunto doppiatore di film o di videogiochi in questo caso. È molto interessante perché inquadra da un punto di vista della serietà del lavoro del doppiaggio sulla dicotomia apparire non apparire. Il doppiatore fondamentalmente è una persona che non appare, non recita all'interno di un determinato tipo di situazione, ma presta soltanto la propria voce. La differenza coi film è che il referente coi film è una controparte reale, quindi tu vedi i personaggi, hai delle emozioni precise che puoi esprimere e quindi tendi a recitare in maniera che sia quantomeno plausibile la tua espressione con quella dell'attore, mentre nei videogiochi, soprattutto come la si considerava un tempo, mancava l'espressività facciale, mancava totalmente tutto un aspetto dei gesti, dei movimenti e dell'interpretare il personaggio, e quindi il doppiaggio molto veniva considerato anche a volte un riempitivo, come un servizio fatto per agevolare più che altro la comprensione del testo, non il modo come veniva recitato. Bellissima l'affermazione che fa la doppiatrice di Fallout 3, che mi sembra che era la dottoressa Lee, se non sbaglio, uno dei personaggi chiave di Fallout 3. Praticamente lei dice: quando ci mettono di fronte a un leggio per farci vedere quanto siamo bravi, noi apriamo un libro o qualcosa e cominciamo a recitare, a leggere. Sembra qualcosa che possono fare tutti, in realtà non è così. E spiega come mai il lavoro del doppiatore è una professione ed è anche pagata, inquadrata in Italia, mentre all'estero viene considerata in maniera totalmente diversa come lavoro artigianale, e quindi tutte quante le contraddizioni che si possono creare fra i budget che chiede un team italiano di doppiaggio con le palle e uno invece americano che molte volte si basa su su attori veri e propri che prestano la loro voce, ma la fanno in maniera totalmente differente dal punto di vista, secondo me, dell'inquadramento fiscale, legislativo, professionali e professionalizzante, appunto. Quindi vi consiglio di leggere questa intervista, che dà una panoramica generale sul mondo del doppiaggio in Italia. Sì, anche perché poi la situazione attoriale americana è veramente completamente diversa dalla nostra, e vabbè, entreremo in un campo anche dal punto di vista tematico un po' lungo, insomma, quindi penso, insomma, che possiamo tranquillamente bypassare, ma è interessante come spunto, e ti ringraziamo soprattutto perché questo lo mettiamo nel nodo dell'episodio, e poi magari potrebbe essere invece un argomento di una puntata seria di titologia videoludica quando rinizieremo, insomma, la prossima stagione, proprio perché questa cosa del doppiaggio poi comunque in effetti è un tema che va affrontato, magari anche con qualche ospite, Stefano, se ci riusciamo. Magari, non so, magari. Anche se non è facile, anche se, se visto le tue conoscenze, se ci puoi mandare che non so, Claudio Moneta, non lo so, Luca Ward. Sì, Luca Ward. Eppure sapete che adesso che ci penso potrei sorprendervi io su sta cosa un giorno. Beh, vediamo. Vabbè, la voce di Simpson è morta, poi non vantarti con ne volevo parlare in chiusura, non detto, se allora macello. Io volevo portare il doppiatore di Dottor House. Bene, si può fare. Ma, perché, ecco, Mass Effect ha cambiato doppiatore durante, sì, perché si era cambiato doppiatore, si è scagliato nel con la moto, cioè, esatto. Purtroppo il secondo si è magari, il personaggio viene identificato con l'attore che lo doppia, mm-hmm, col doppiatore, pensateci quanto, cioè, cosa ha determinato di diverso in Shepard il fatto che ha cambiato doppiaggio, che per me comunque sono tutte e due varie. Io posso dire una cosa, che innanzitutto sono buoni doppiati, come diceva Marco. Poi in realtà Moneta lì c'ha avuto proprio un problema fisico, nel senso che comunque c'ha avuto quel gravissimo incidente con la moto, che in realtà, anzi, che insomma alla fine troppo bene gli è andata, e grazie al cielo, diciamo. E la scelta del team di doppiaggio è stata una buona scelta, nel senso che hanno cercato di far sentire il meno possibile la differenza, e secondo me per certi versi un po' ci sono riusciti, che ricordiamo non era facile, perché soprattutto la voce comunque di Claudio Moneta nel 2 c'era, ma nei codex che erano, esatto, più o meno presi anche dal primo, quindi tu sentivi la differenza passando dal codex a una sequenza in cui Shepard, io infatti per quello parlava, che i codec non me li sono proprio sentiti nel 2, cioè nel senso che la differenza la sentivi anche all'inizio, anche senza sentire i codec, sì, però era una voce che comunque piano piano ti ha abituato, nel senso che, sì, comunque poi alla fine l'hai assimilata e l'hai accettata, quando poi nel 3 sei ritornato a lui è stato quasi un passaggio naturale, nel senso che poi tendi, se non il fatto che tu lo sai che nel secondo era un attore, sì, diverso, tendi anche a dimenticarlo un po', sì, diciamo che il lavoro su Mass Effect è stato un grande lavoro, insomma. Che poi pensateci, nel 2 avrebbe avuto anche un senso, perché ricordiamo che il 2 comincia con Shepard che schiatta fondamentalmente, e quindi stava viene lo stesso, esatto, lo stesso corpo di Moneta schiatta pure lui quindi il suo corpo viene ricostruito, e quindi è normale che magari la voce possa anche cambiare. Sai quando si raccontano quelle leggende nel mondo del cinema, della musica, no? Sì. Quando si creano questi feeling a doppio filo, no? Tra personaggio, sì, e magari attore, e paradossalmente, sì, vedi che insomma si potrebbero costruire tante leggende metropolitane, cioè, no? grosse grattate delle palle di Uglori, comunque stavo con la smucinassi, come si dice dalle nostre parti, chiaramente, certo, chiaramente. Vabbè, andiamo avanti, dai, basta. Allora, diciamo che ce ne stanno ancora una cifra, no? The Witcher, purtroppo sì. Rocky Legends su PlayStation 2, Fahrenheit, Crash Bandicoot, che io ho giocato, anche se, ecco, tutte cose che noi metteremo chiaramente nelle note dell'episodio. Ape Escape, mamma mia che zozzeria, Calling per Wii, insomma, vabbè, ce ne sta un po' di roba, quindi noi fissiamo un attimo l'attenzione su gli ultimi due o tre, proprio giusto per... Partiamo da Medieval 2, chi è che lo voleva raccontare un attimo, magari dai, che a parte lancia. Che è Medieval, perché ha scritto male, però vabbè. Medieval, io ho riportato col copia incolla il suggerimento del Medieval, Medieval 2, sì, esatto. la famosa Medieval è un altro, perfetto, è un gioco per PlayStation 1. Allora, la famosa pavera del doppiatore che prega. E lì ovviamente evidentemente si sono tentati di tagliare il file audio era lungo e quindi loro l'hanno preso proprio il blocco e l'hanno schiaffato dentro, insomma. Vabbè, ascoltiamolo un attimo giusto per, insomma, poi se poi qualcuno vuole di qualcosa. Unità se ne impossessi, selezionala e clicca col destro sull'equipaggiamento abbandonato quando il puntatore si trasforma in una mano. Clicca col sinistro su mostrami come per ottenere dettagli sui tuoi obiettivi e sull'uso degli arieti, delle scale. Porco cane, mi sono perso un'altra volta. Ecco, io vorrei dire solo porco cane. Mi sono perso un'altra volta. Esatto. Porco cane, mi sono perso un'altra volta. Poi detto da quella voce così grave. No, detto, mi sa proprio di uomo con la ricottina nelle labbra. Schifo. Ai lati, sì, una cosa molto schifosa. No. Però c'è da dire, scusate, che il comunque era serio quando, anzi, ci dava una certa enfasi quando cercava di farti seguire le istruzioni di sto tutorial. No, ma è un gran, cioè, un ottimo doppiatore, però sì. a me sa di ricottina, non so cosa dirvi. Non lo mangiare. Oltretutto, a quanto pare, c'è la famosa leggenda che si erano appunto dimenticati di sostituire il file audio, quello corretto, quindi avevano a quanto pare forse pure distribuito il gioco così e poi subito dopo venne rilasciata una patch che appunto correggeva questo bug audio. Che con un'altra imprecazione da qualche altra parte. No, comunque ovviamente senza l'imprecazione. Con la migliore selezione di Germano Mosconi, per l'altro. In un'era dove non era facile fare doppiaggi, insomma, in italiano, e come dicevamo, insomma, forse i pochi giochi che venivano doppiati in italiano erano prevalentemente avventure grafiche, quindi punta e clicca. E c'era un periodo in cui andava molto molto di moda le leggende di Cthulhu. E c'è un gioco che si intitola Prisoner of Ice. Sentitevi un attimo questo pezzo, perché per tutti quanti che invece vogliono soffrire soltanto del link, è al minuto 4.30. Terminata operazione Polaris, due casse a bordo, recuperato Bjorn Hamsun, stato mentale critico. Tenente O'Leary dato per disperso. Ci dirigiamo verso la base. Le due case sono ancora ricoperte di ghiaccio? Sì, signore. Non devono essere esposte al calore in nessun caso. Sorvegliate Hamsun, l'unità di più, messaggio ricevuto. Ricevuto. Passo e chiudo. Tenente Ryan, dopo la scomparsa del tenente O'Leary, sarete voi il primo ufficiale su Victoria. Credete che Hamsun se la caverà? Faremo tutto il nostro possibile affinché il mondo della scienza non perda il suo antropologo più brillante. Le due casse sono al sicuro, comandante? I vostri superiori dei servizi segreti a Washington saranno soddisfatti di sapere che esse sono ora nelle mani della Marina Britannica, tenente Ryan. Quell'Hanson ne ha del fegato. Mi chiedo come sia riuscito a inviarci un SOS mentre era nelle mani dei nazisti. Senza quel diavolo d'un uomo, l'operazione Polaris non avrebbe mai potuto avere inizio. Insomma, siamo sempre lì. No, nel senso. Sì, c'ho pelle d'oca. Sempre quando. Oh, ragazzi, è arrivato dallo sviluppatore, è arrivato il gioco, dobbiamo doppiarlo in italiano. Si chiama Peppe, ma sta pure il cesso, chiamalo, vieni, fallo venire qui. Chiama tua madre, che dobbiamo fare due pezzi qua. No, perché cioè questo era un po'. E neanche i 50.000 lire che auspicavo prima, suppongo. Luigi, da Ginger Bull, insomma, vero. Certo, no. Tutto gratuito, tutto per amor del doppiaggio. E poi voglio dire, magari c'era anche uno spirito, cioè, magari si sono pure divertiti a farla sta cosa. Magari se lo ricordano con piacere. Sarebbe figo andare a rintracciare sta gente Cioè, ma tu sei stato... Sempre che voglio essere rintracciato. Esatto, esatto. Ma tu sei quello che ha fatto Prisma no, Wise? No. Oh, no, assolutamente no. Ma lei è quella che ha fatto Nocturne. Ma cosa dici mai? Ma chi si salverà da questi doppiaggi? No, io mi ricordo, non so perché mi ricordo vagamente la telenovelas piemontese, quella Mamma di Medire TV. Mamma mia, che cosa hai tirato fuori? Quella storica. Che anche lì avevano quell'accento torinese estremamente marcato. Diciamo, sì, non fare il baluba. Non riesco neanche fare a farlo. Il baluba. Però, dice, non fare il baluba, sì. Uno stica la menta. Cazzo, erano fantastici. E non so perché la tizia bolognese mi ricorda molto. La tabaccaia, Moscione, la sì. Sua tabaccaia. Esatto. No, che la mia madre, no, di cosa, c'era lui che diceva che era orfano. No, la madre era una povera camiciaia, dicevo. Una professione che purtroppo è andata dispersa. La storica professione della camiciaia. Comunque, sì, a parte le camiciaie. Io direi comunque di andare a sentire l'ultimo proprio. Okay. Aspetta, però, cioè, scusa, la qualità generale di Prisoner of Ice comunque era sempre pessima. Non è che era solo un personaggio in particolare, era un po' tutto il doppiaggio. Diciamo, per non far sfigurare troppo una persona, hanno sfigurato tutti. No, esatto. è come su, quando tu c'hai sul set un attoruccio e un attorone, e tu vai dall'attore e gli dici. Cala, devi scendere. O li lascia andare sto personaggio, capito? Così. No, ma i programmatori, in quanto, cioè, hanno detto meno per meno fa più. Magari se facciamo un doppiaggio di merda. Anche se poi era una bella avventura, poi. No, sì, per carità, ma il doppiaggio, insomma. Anche qui io direi in lingua originale, questo è tutto in italiano. Poi adesso. Ma quello era la lingua originale, era l'italiano. L'italiano no, di merda. No, quello è il problema. È quello il problema. E poi erano i periodi, ecco, delle avventure grafiche su Cthulhu e Alone in the Dark. Era l'epoca di Alone in the Dark, ragazzi. Sì, quindi... anche The Shadow of the Comet. Sì, però sì. Quello non mi ricordo se l'hanno doppiato. Però insomma, no, mi pare che Shadow of the Comet, no. Per fortuna, però era tradotto in testo. Se non erro, italiano era localizzato a livello di testi. Sì, sì, sì. Erano grandi periodi quelli. Sono stati momenti pioneraggio. Che io ricordo volentieri, soprattutto anche a livello di archeologia videoludica. .net. Vabbè, andiamo all'ultimo. Poi spiegaci perché. Perché l'abbiamo messo per ultimo. No. Che cosa? Perché dobbiamo puntare l'attenzione su quest'ultimo proprio? Perché questo, innanzitutto, è vietato ai minori di 18 anni. Perché è pieno di imprecazioni. E poi perché l'alto contenuto veramente... in che senso? Perché si impreca, si impreca. Allora, io direi prima di tutto, ascoltiamolo. Culetto, questa cosa qui. Ascoltiamolo e poi alla fine ne commenteremo. Capolinea, gente. Benvenuti a Carnate, detenuti, e buona permanenza. E se qualcuno prova a fare il furbo, gli spacco il culo, capito? Qui Cash, siamo arrivati, mandate i pullman. E fate in fretta che mi prendono le mani. Non mi sembri tanto felice di essere qui. Non riesco a crederci. Il primo che scantona gli sparo, lo seppellisco e gli piscio sulla tomba. Chiaro? Mi fanno schifo. Non agitarti, bello. Non sono se poi non così fossero male. Così male, noi non saremmo. Ehi, Raf! Che è la checca che hai fatto fuori stavolta? Va a farti fottere, Luke. O il prossimo sei tu col tuo culo da procetto. Non le tollero le stronzate dei detenuti. Lo vedi, quello? È un fottuto degenerato. Il suo fatto fuori dei ragazzi. Ho sentito. Fottuto ammazza bambini. Davvero, cazzo? Quel sacco di merda lo sbattono nel braccio della morte. Stronzate! Vedrai che tra un ricorso in appello e l'altro tira avanti minimo 8 anni. Farsa del cazzo. Acceleriamo un po' le cose. Diamogli una bella perché limatina. No? Tanto ai secondini non gliene frega niente. Anzi, se lo scuoiamo. Gli risparmiamoci da fare fatica. Allora. Ci sto. Che aspettiamo? Sveglia. Sì, allora l'ho recuperato su eBay dietro consiglio di un amico. Bell'amico, circa 3 mesi fa. sì, no, l'amico che stravedeva proprio pazzo. Lui adora Silent Hill, tutti gli horror e i terror games. Vabbè, e mi ha detto: guarda, lui gioca assolutamente Suffering perché è una cosa così politically incorrect. Ti metto una parentesi. Il gioco, se non fosse perché è stato doppiato in italiano, secondo me valeva la pena perché comunque era carino, molto carino. Sì, Sì. No, infatti lui non me l'ha consigliato per l'italiano, il doppiaggio, per l'italiano, proprio per il gioco. Mi ha detto: guarda, veramente vale, è passato sotto gamma, ma ti dico che vale, insomma, per, se ti piacciono gli horror, vai. Però quando mi ha fatto vedere poi l'introduzione, mi sono innamorato, perché ho detto una cosa così sbagliata fondamentalmente da tutti i punti di vista, estetici, concettuali, la gratuità delle parolacce, il vituperio. Ho detto: questo qua è un pezzo unico, quindi lo devo recuperare. L'ho trovato a 5 euro, ripeto, nuovo, non forse usato, però come nuovo su eBay. Ma credo che se fate un giro nei negozi, nei GameStop, soprattutto nel romano, non avrete problemi a trovarlo tranquillamente. E quando te lo vendono ti seppelliscono e ti pisciano anche sulla tua esattamente. Sì, è compreso. No, perché qua in Abruzzo non sono riuscito a trovarlo quando ancora c'era la ricerca dei GameStop, ad esempio, dei videogiochi di PS2. Mi sa che adesso l'hanno tolto, comunque è molto più difficile perché in Abruzzo non sopportano le stronzate dei detenuti. Una cosa veloce, però. Esatto. No. Che cosa dirvi, qua è, si sfiora quasi il ridicolo dal punto di vista della creazione della tensione, da un gioco che era parte con delle premesse assolutamente serie dal punto di vista dell'entrata in scena dell'orrore, vanificarle con una sorta di scimmiottamento del doppiaggio e comunque del vituperio gratuito, fa cadere totalmente, fa crollare l'aspetto drammatico, comunque terrorizzante, che dovrebbe avere il videogioco. E questo ci fa riflettere su quello che dovrebbe invece fare il doppiaggio dal punto di vista del coinvolgimento del giocatore. Dovrebbe farti predisporre, magari in questo caso come un antefatto, perché è una cutscene iniziale, alle avventure. Immaginatevi una introduzione di Metal Gear, faccio un esempio, non il primo, ma già a partire dal secondo, dagli altri, che fosse fatta in italiano a questi livelli. Cioè, quando poi cominci a muovere Solid Snake ti viene da ridere, cioè tutto l'apparato ti viene drammatico da anche prima, cioè. sì ma anche prima, sì. Vabbè. Quindi fa capire l'importanza del doppiaggio in questo caso italiano. No, poi ricordiamolo che Metal Gear Solid, cioè Metal Gear il 2, quindi quello su PlayStation 2, cioè in realtà se fosse stato doppiato, cioè il livello sarebbe stato quello, o quantomeno sì, quel livello del primo Metal Gear. Sì, più o meno gli anni ci stanno, era ancora sì. Quello lo stile, probabilmente sì. Mi ricordo una cosa simile, non per quanto del doppiaggio, ma quanto riguarda la traduzione del testo delle canzoni. Ci fu un Pearl Jam in un album in particolare, vale a dire, se non sbaglio, Yield, non mi ricordo se YELD con il punto esclamativo sì, finale. YELD col cartello stradale, esattamente. Cosa accadde quando venne il cantante dei Pearl Jam, Eddie Vedder, in Italia e vide una traduzione dei testi dei Pearl Jam, tra l'altro forse non autorizzata, non ufficiale, però comunque in vendita, e vide i testi delle sue canzoni, veramente ebbe una sorta di dispiacere, ma veramente profondo, perché era completamente tradotto in maniera errata anche a livello concettuale. Allora cosa fece? Il prossimo album che fece uscire, cioè quello successivo, chiamato appunto Yield, incluse solo per la versione italiana, e se lo comprate adesso, sto parlando di 10 anni fa se non sbaglio, se lo comprate adesso c'è ancora, un rettangolino di carta con delle belle foto soltanto per la versione italiana, con questa spiegazione che diceva che è rimasto deluso dalle traduzioni di tutte le canzoni contenute nell'album tradotte in italiano. Insomma, le solite figure di merda. Esattamente, solo per l'Italia. Quindi potete immaginare: just for you, cerebellos italiani, che broccolino. No, questo per farvi capire fondamentalmente come può rovinare addirittura una traduzione dall'inglese all'italiano puramente scritta. Figuriamoci quando entra nel media, in questo caso del videogioco, quando una traduzione fa proprio cagare. In questo caso The Suffering è un emblema di questo, che è il lavoro pessimo fatto dai doppiatori, che rovinano totalmente un'atmosfera, e di come caricaturizzi al punto un videogioco che invece non ha bisogno di essere caricaturizzato, o quantomeno non dovrebbe, visto ciò di cui parla, da renderlo unico. Cioè, è meraviglioso. Luigi, in questo caso, Omen, no? È proprio una sofferenza, sì, in tutti i sensi. Sì, ma paradossalmente poi, io aggiungo un'altra riflessione, così andiamo proprio a chiudere in bellezza, che insomma è anche giusto per dietrologia videoludica. Questa cosa dei doppiaggi, doppiaggio amatoriale rispetto a doppiaggi clamorosi. Io l'altro giorno con Peppe stavamo parlando pure di Enslaved, no? Sì. Al di là del finale, del contesto narrativo e di quanto poi insomma il gioco non sia riuscito quanto avrebbe potuto, c'è comunque un grande doppiaggio, soprattutto nella scena finale. C'è un'ottima atmosfera e un'ottima interpretazione nel doppiaggio. Questo che ci dice? Ci racconta di quando anche l'industria del videogioco è passata da un'epoca più artigianale a un'epoca più industriale, no? Quando è diventato tutto un meccanismo basato sul grande business, sul grande budget e quindi sulle grandi produzioni, rispetto a prima che comunque anche dal punto di vista produttivo il gioco costava, anche grandi giochi costavano molto di meno e quindi gli investimenti erano meno giustificati, i grossi investimenti, quindi quelli come sul doppiaggio. E da una parte, per quanto sia indiscutibilmente meglio adesso, no, tecnicamente, cioè sia nel doppiaggio che nei giochi, allo stesso tempo ti viene un po' da rimpiangere quel senso così artigianale, no, che comunque era divertente in un modo o nell'altro, era un modo anche per scherzarci sopra, per riderci sopra. Sì. Capisco la tua considerazione, che è legata a un aspetto anche molto popolare del videogioco, cioè il fatto di dire molto molto fra di noi, quindi bello e tutto, mi fa riflettere su un aspetto che è legato al progresso tecnologico con l'andare avanti del tempo, l'immersività di un videogioco dal punto di vista della caratterizzazione empatica che tu provi con i giocatori, anche i personaggi non giocanti, sarà sempre più caratterizzata da una controparte fotorealistica. Questo fotorealismo, così come anche la violenza rappresentata, non potrà essere accompagnata da un errore dal punto di vista del doppiaggio stesso, che ne va a connotare così fortemente i caratteri fondamentali. Altrimenti rischieresti davvero di avere un prodotto meraviglioso d'eccellenza con un sistema di interpretazione di quello che vedi che fa cagare. Questo cosa va a creare? Va a creare una sorta di distacco, distacco se vuole, anche emotivo, fra ciò che compare sullo schermo e ciò che vivi tu, che lo vivi in maniera doppiata. Ecco quindi che, così come il videogioco come prodotto di tecnologia non può più permettersi questa sorta di mancanza di sincronicità, di sintonia fra quello che vede sullo schermo e come viene caratterizzato, così penso che avremo sempre meno produzioni di poca qualità, ma avremo un'attenzione molto più vicina al dettaglio. Questo minimale, è ovvio, ma io non, cioè nel senso, non è che contestavo il fatto, oppure io prediligo quel mondo, capisco, piuttosto quest'altro. È un po' sorridendo, dicevo, certo, era un modo diverso, no? E quindi questo lo abbiamo visto su tante cose, anche nel cinema. Una volta comunque pure gli effetti speciali si facevano artigianalmente, eppure apprezzavi comunque il significato, lo sforzo in qualche maniera, no? E ti faceva sorridere, sì, ci parlavi e ne commentavi sopra. Adesso la perfezione la commenti più da un punto di vista analitico, critico, nel senso, ecco, allora se quella cosa è meno riuscita rispetto a magari il videogioco precedente che è uscito un mese prima, perché tecnicamente non sono stati all'altezza di raggiungere quel livello lì, però che poi chiaramente tutto va verso una perfezione e un miglioramento, questo è chiaramente un bene, no? No, ma è che proprio non ci si può permettere naturalmente di scimmiottare, come quando se adesso tu approcci una bellissima ragazza che ti piace eccetera, non puoi far vedere che sei fai delle figure, delle gaffe, perché ci sarebbe proprio, tu naturalmente sei portato a dare il meglio di te, sto facendo un esempio assurdo, ma è anche nella violenza dei videogiochi, sto pensando a Grand Theft Auto all'inizio potevano ancora scimmiottare nel 3 le uccisioni, le morti eccetera, ma col fotorealismo sempre più spinto, immagino il prossimo Grand Theft Auto ma anche le future produzioni, secondo me la violenza sarà molto dovrà essere molto meno spettacolarizzata. Quindi secondo te non faranno saltare nei cani? No, quello si salterà comunque. No, però per dire che già farà il 4 ridere. È così comunque, già, senso... già il 4, esatto. Il 4 conta meno morti o gratuità di morti rispetto a, invece a, a una partita normale agli altri Grand Theft Auto, dove era una sorta di giocattolo in cui ti provi a sperimentare. Qua tu sperimenti, eccetera, ma non ti viene tanto voglia di fare l'incidente o di vedere la drammaticità della cosa, perché il fotorealismo, paradossalmente, io credo, frena la voglia di scimmiottare un comportamento ma, violento, ma anche, cioè, anche il plot fino a un certo narrativo punto. Comunque cerchi di essere contestualizzato al personaggio, il personaggio già di certo. Sé ti racconta, si racconta in un modo, e tu non è che poi lui esce dalla stanza e tu cominci ad andare in giro a ficcare sotto gente, capito? Cioè, ma certo, anche perché poi io ti ho proposto di sensibilizzazione, desensibilizzazione a quello che è il tuo approccio al videogioco. Immaginati un fotorealismo in cui io sparo a qualcuno e lo vedo davvero urlare, sanguinare, imprecare o perdere le budella o soffrire, oppure un bambino, per dire, un ragazzino. I cioè, bambini non ci sono mai nei giochi violenti, cioè. Per dire, Fallout, cioè, non li puoi uccidere. No, invece Fallout li potevi uccidere. No, no. Su Fallout 3 no, sul so primo se... sì, sul primo forse, primo sì. Poi dopo c'è stata, sì, c'è stato il blocco, no. E poi dopo c'è stata la patch per sbloccare il blocco, però in realtà sì. Originariamente su Fallout tu potenzialmente potevi fare non tutto. C'era il primo, quello originale. Grand Theft Auto 4 c'era però un ragazzo, c'erano i ragazzini con gli zaini, mi ricordo, che puoi fare fuori in Grand Theft Auto 4. Alcune volte ti incontri dei ragazzini che passano, forse adolescenti, non proprio sì. Bambini. Sono più sì, accettabili. Sì, però... sì, è più accettabile acciaccare un adolescente. Se per cioè, questo gli adolescenti di oggi non fanno una lira di danno. Con le ultime patch non puoi, per esempio, neanche ammazzare pure i bambini su Skyrim, per esempio. No, ma neanche all'inizio, non puoi fare. Oppure anche altri giochi dove non potevi ammazzare i bambini, erano pure quelli della serie Fable. Se vi ricordate, sì. No, non siamo malati, adesso... stiamo facendo delle considerazioni, sì, sì, ma questo è per il pubblico, perché non è che noi vogliamo a giochi. Parte il discorso etico, il discorso permissivista, a parte, dico proprio sì. Che il fotorealismo, sì. Paradossalmente, non invoglia ad essere violenti o altro in maniera così gratuita e ripetuta, perché se diventa disturbante, desensibilizza il giocatore alla violenza, mentre quando è grottesca. È piacevole. No, anche perché mi hai fatto forse. Riflettere su una cosa, no? Cioè, non so se avete mai visto Cose molto cattive, il film. Sì. Sì, cioè, la scena quando bellissimo. Loro stanno a Las Vegas e ammazzano la guardia dentro alla vasca da sì. Bagno, che lui ha coltellato, chiaramente non è colpito a morte. E quindi c'è la scena sì. Che noi sentiamo, tra l'altro, neanche vediamo, che lui sta morendo, soffrendo, che è una sì. Scena terribile. Cioè, se provate a ricordarvela un attimo com'è, cioè lui che strilla come un maiale che sta per morire, è la stessa cosa. Sì. E loro che tengono chiusa la porta per non uscire. Chiaramente, cioè, nel senso, anche solo immaginate una cosa del genere in un videogioco, no? Nel senso che dove voi siete l'artefice della cosa, no? C'era, ecco, giochi tipo Postal che tu andavi in giro oppure qual era quell'altro che tu potevi accoltellare la gente così a casaccio che si vedeva che rimanevano le ferite. Ci stavano vari giochi veramente brutali, però il Assassin's Creed. No, sto parlando. Bravo, ecco, esatto, bravo, perfetto. Sì. Dove però ovviamente l'assenza di fotorealismo in qualche maniera, per quanto allora allo stesso tempo poteva essere turbante. Comunque l'assenza sì. Di fotorealismo o l'assenza di un plot narrativo che in qualche maniera ti incastona, perché chiaramente quando GTA è diventato un gioco veramente mainstream, a quel punto loro l'hanno voluto mantenere con un certo tipo di spirito originale, ma allo stesso tempo l'hanno voluto incastrare da quel punto di vista e sì. Non so come siamo finiti poi a parlare di questa cosa. Infatti, basta. Da Safferi, partendo da Safferi, sì, vabbè. Comunque, sì. Vabbè, facciamo l'ultimo giro d'opinioni: Giuseppe, Stefano, poi Marco, e poi diamo i saluti. Chiaramente, beh, saluti belli. Vai, Peppe. Beh, io spero, cioè, queste come considerazione in generale, devo dire che nell'ultimo periodo comunque il doppiaggio è migliorato, ma veramente di molto. E spero che magari un domani ci siano anche nuove voci esordienti, proprio per non ritrovarsi sempre con. Anche perché prima o poi morono. I stessi soli, esatto, soliti noti che come magari. Appunto, lui ormai sta un po' dappertutto. Esatto. Ma pensavo che dovesse morire, sì. Insomma, cioè, si è già sfrangata una volta, insomma. In ogni caso, ho detto, io personalmente quando è in italiano non è proprio snervante, preferisco comunque almeno un primo giro farmelo nella mia lingua. Poi se proprio, diciamo, sono rimasto estasiato pure dalla voce originale, magari sì, posso anche godermi l'opera in un secondo momento con pure le voci originali, ecco. Anche perché io penso che mentre che su un film girato originariamente in una determinata lingua ha veramente ancora più senso sentirlo in lingua originale, in un gioco che comunque è frutto già di un predoppiaggio, quindi in una lingua, a meno che non c'è un lavoro accuratissimo come proprio in GTA ad esempio, anche nella Stavassi, sì, però già, ecco, per esempio su GTA o i giochi della Rockstar c'è molto Elenoir, c'è molto un lavoro sullo slang, sull'accento, sul tipo di linguaggio, che chiaramente in un ridoppiaggio in italiano probabilmente molto lì in quel caso si andrebbe a perdere. Allora a quel punto lo posso capire, altrimenti in linea massima un doppiaggio di buona qualità inglese con un doppiaggio di buona qualità italiano, secondo me italiano forever, insomma. Cioè per me, poi io sono vecchio rincoglionito e ho la TBC al cervello, quindi insomma. Scusa Giuseppe, ti ho interrotto. No, io avevo chiuso più o meno qua. Comunque un ultimo tanto per menzionarlo, un altro ottimo gioco secondo me con un doppiaggio dove anche lo stesso doppiatore del protagonista, che era Alessandro Zurla, aveva chiesto esplicitamente i testi e i video proprio per potersi immedesimare meglio, era proprio appunto quello di Alan Wake. Secondo me è un doppiaggio fantastico, non so se Luigi concorda. Sì, necessariamente, perché trattandosi di una produzione che parla di uno scrittore, quindi di parole, quindi di autoralità di questo mondo tutto fittizio, che poi cerca di portare su un autore che non esiste, è giusto anche che ci sia una sorta di buona pretesa simile. Mi fai pensare ai primi creatori di videogiochi, parlo per esempio di David Crane, uno su tutti, il creatore di Pitfall, che praticamente litigò al tempo, non so se con la Warner se non sbaglio, comunque con l'Atari, scusate, perché si rifiutarono di far mettere i nomi dei programmatori dei videogiochi sulle cartucce. Sì, è stato un problema per molto tempo. Questo, allora io concludo in questo modo qui, che anche il doppiaggio sia sempre più riconosciuto come un'arte. Luigi? Mi sentite? Sì, sì. Adesso sì. Concludi? Ok. Dico, quindi concludo dicendo che anche il doppiaggio spero sia sempre più riconosciuto come un'arte professionale, professionalizzante, e soprattutto per chi vuole fare doppiaggio e chi magari ci ascolta, fare delle scuole di doppiaggio, seguire quindi dei corsi di recitazione. Esatto. Sì, perché recitare ti porta poi a doppiare, fondamentalmente un'arte della recitazione. Si diceva che la traduzione a livello biblico è creazione, quindi quando Dio, grazie al verbo, creò il creato, fu una traduzione del suo verbo che gli diede vita a tutta la vita come noi la conosciamo, al pianeta, alla terra, alle acque, eccetera. Ecco, quindi doppiare significa ricreare da capo. Fondamentalmente, ricreare partendo da zero, anche se tu hai il testo di un'altra persona, devi dargli colore, espressività e altro. Quindi, se è fatto sotto gamba, se è fatto perché devi farlo così per prenderti due soldi, a questo punto è meglio che non lo fai. Tutto qua. Sì, beh, ho sempre ottimi spunti. Mi stava venendo in mente una cosa, anche a livello figurativo, il fatto che comunque il linguaggio di per sé, la lingua, il parlato, è la sorta di interprete, no? Del nostro pensiero, quindi mi è venuto in mente il Basic, no? che era veramente il filtro tra quello che tu volevi fare, pensavi, e la macchina che lo doveva fare, no? In un certo senso, insomma, mi è venuto in mente, non so perché, questa cosa sempre a livello retrocomputistico, che oramai è una malattia. Stefano e poi Marco. Sì, allora ero impegnato a tossire, forse la TBC è arrivata anche qui. Arriva, poi arriva. Sì, sì. Contatto anche radiofonico è letale. Allora, io ne approfitto invece per salutare un doppiatore che mi ha accompagnato più o meno tutta la vita, che è mancato qualche giorno fa, ovvero Tonino Accolla, cioè la storica voce di Homer, Jim Carrey. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Scusa, perché poi dopo purtroppo c'ho sta cosa della TBC mentale. Tra tutti i messaggi ciao Tonino qua e là e via dicendo, roba del genere, che abbiamo visto anche articoli sui giornali, l'immagine che è girata, che era un'immagine senza scritta, senza niente, secondo me è stata la più bella di tutte, quella di Homer che sta praticamente seduto triste, c'era, sì, c'era forse la dicitura. Perché sei così perché silenzioso? Perché sei così? Perché stai in silenzio? Perché sei silenzioso? Uh-huh. Che ha raccolto, no, nell'immagine, che poi è un'espressione, un linguaggio già di suo, chiaramente la potenza del messaggio che. Che chiaramente come doppiatore non era Homer, no? Era tanti altri personaggi, come stava dicendo giustamente e continuerà adesso a dire Stefano. Però ecco, quell'immagine mi è rimasta molto molto molto impressa. Vai Stefano, scusa. Sì, no, ecco, mi unisco perché in particolare Homer, i Simpson mi hanno accompagnato più o meno durante tutta la vita praticamente. Più di 20 anni. Sì, io ho iniziato a vederli da piccolo e continuo a vederli tutti. No, Pizzardo. In italiano. Pizzardo. Esatto. E ho continuato a vederli sino ad oggi praticamente con la sua voce e quindi insomma l'idea di non sentirla più è un po' strana, è una cosa che è un po' strana. L'ho pensato appunto quando abbiamo iniziato a parlare di doppiaggi, poi anche Luigi l'ha nominato in chat e ho pensato che appunto fosse, cioè almeno per quanto mi riguarda, quell'immagine lì che hai nominato tu, io l'ho condivisa anche su Facebook con insomma un discreto magone, perché poi lui umanamente chiaramente non lo conosco, non giravano delle ottime voci sul suo operato, diciamo, come doppiatore, come gestore, come direttore del doppiaggio, ecco, nei confronti di altri doppiatori pare che fosse poco socievole, diciamo. Però comunque ha rappresentato quello che nel doppiaggio per me è stata parte della mia vita, e quindi parlando di doppiatori e di doppiaggio non posso che rivolgere un saluto, insomma, insegna gli angeli a doppiare. Ecco. Che poi è strano perché vedete, muoiono attori anche di teatro, di cinema, robe del genere, eppure forse io penso che se noi in Italia siamo un caso unico al mondo, come diceva giustamente anche Luigi prima, il fatto che comunque ci dispiaciamo per la morte di doppiatori, perché comunque quelle voci in qualche maniera ci hanno veramente accompagnato molto più dell'immagine in sé, perché poi comunque il suono, il verbo in qualche maniera comunque c'ha la sua potenza, come quando appunto stavamo dicendo prima è morto anche il doppiatore che faceva Dottor House, William Riker, insomma ne ha fatti anche lui dei grandissimi personaggi a livello televisivo, e così come poi è successo anche con la Mendola, insomma, e via dicendo, insomma, nella storia, voglio dire, dei doppiatori, che purtroppo poi giustamente non sono eterni. Vabbè, grazie del pensiero, Stefano, perché comunque era quasi. Spero, cosa, hai dato uno scopo a questa tua serata, perché ci vorresti stare tutto il tempo a contare soldi, invece alla fine hai buttato su. Marco, tu invece. Ma io, insomma, il pensiero finale. Il mio pensiero è che tutto sommato anche il doppiaggio evolve, quindi ciò che è nato come una cosa molto amatoriale adesso sta diventando una cosa seria, anche giusto che sia così, quindi si sta adattando anche alla complessità del videogioco stesso, e naturalmente ciò che prima ci facevamo andare bene adesso per noi diventa una cosa inaccettabile, per cui sentire tanti vecchi doppiaggi adesso ci fa sorridere. Però questa è una puntata, non era tanto per criticare o per andare a fanculo quei doppiatori di che schifo. Quello c'era allora, quello ce lo facevamo andare bene. Ce lo facevamo andare bene. Perché quello per noi era una cosa nuova, una cosa positiva. Quindi per noi anche il videogioco cominciava a diventare importante. Avere un doppiaggio su un gioco, tra virgolette, era una cosa importante. Quindi, non eravamo più gli ultimi degli stronzi. Erano penultimi. Era un po' quindi come riscoprire. Non se ne diciamo vogliono i doppiatori che abbiamo citato o per nome o per le loro prestazioni, perché ovviamente non era per mancare loro di rispetto, ma era per diciamo un po' riderci su quello che è stato il nostro passato. Era anche in parte pure per nostro orgoglio personale, per ritrovare un po' della nostra italianità anche all'interno di un prodotto. Uscite fuori, fate vantatevi di queste cose. Io ho doppiato l'italiano nei videogiochi, certo. Ragazzi. Ecco, noi non ridiamo di voi, noi ridiamo con voi. Esatto, ecco. Anche per voi. Anche per voi a volte, sì. Esatto. Va bene, ragazzi, io a questo punto, come ogni anno, a questo momento, siamo al momento dei saluti, perché comunque questa stagione, che è la prima stagione, ma in realtà è la prima stagione qualche cosa, infatti ci ha veramente distrutto questa vi ricorderete che è durato 15 mesi esatto cioè. Ci siamo 17 puntate, ricordate che dietrologia videoludica ha già un anno e mezzo, sembra una cosa assurda ma forse anche qualcosina di più tra quando l'abbiamo concepita e noi abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio, nel senso comunque di proporvi cose un po' come doppiatori che dico che esatto. Questa sera artigianalmente abbiamo cercato sempre di dare il nostro meglio, nel senso qualche spunto che potesse essere più o meno interessante. Speriamo di avervi fatto compagnia, di avervi fatto riflettere, ma soprattutto di avervi fatto anche sorridere, se non ridere, in qualche occasione. Ci rivediamo forse a settembre. Vediamo, perché poi pure questa trasmissione dovrà trovare veramente un po' una sua collocazione, come giusto che sia, all'interno di un nuovo palinsesto che è quello di IPN, che nascerà tra settembre e ottobre. Io ringrazio sempre tutti perché comunque tutti hanno dato una mano, tutti hanno contribuito, tutti hanno creduto un po' in questo progetto, e anche la pazienza, a volte un po' il sacrificio, insomma, di mettersi a disposizione di una cosa come questa può sembrare sempre molto divertente, ma in realtà a volte è anche un po', sembra stupido, ma è anche un impegno, perché comunque noi ci teniamo a uscire, a far sentire comunque le nostre puntate, e a volte sacrifichiamo anche un pizzico del nostro tempo, come Stefano che lavora, sa, come Marco ha perso 2 milioni di franchi più gli occhi a forma di franco adesso purtroppo. Non so se volete fare il vostro classico giro di saluti. Io guarda Giuseppe, Luigi, Stefano, Marco, e poi dopo chiudiamo. Allora, niente, io vi saluto, vi ricordo solo che mi potete trovare su Twitter col nick Peppe Saso e sul mio blog, dove insomma pubblico diverse cose o comunque link a siti per cui scrivo. E questo qua è vitaingioco.tumblr.com. Ok, Luigi. Sì, a me potete trovare alcuni miei articoli sul mio sito, che è praticamente un blog, electronicself.blogspot.com. Curo una rubrica su PlayStation Magazine che esce in edicola, si chiama Deep Inside, e poi su vari che podcast, non è una rivista porno, sto qui. Specifichiamo. No, Deep una rivista Throat, sì. PlayStation Magazine. Io non volevo dirlo, l'ho detto uguale. Vabbè, una volta a te, una volta a me, pizzi. No, presumo, insomma, se fossi su una rivista porno e curassi una rubrica chiamata Deep Inside, farei sicuramente gli articoli a tema e probabilmente avrei anche un futuro come redattore fisso. Insomma, cioè, ci mancherebbe, il porno tira molto più dei videogiochi. Cos'altro dire? Ah, vedete, poi mi trovate sui podcast, quindi Dietrologia Videoludica, Retrocast, Outcast, e a volte anche Archeologia, esatto, Videoludica. Esatto. Come prossimamente tocca a me. Vai. Beh, io voglio salutare tutti quanti i nostri pazienti spettatori. Ho anche un piccolo inciso, perché sapete quel fumetto che ho fatto l'anno scorso? Forse potremmo anche mettere il link della seconda puntata. Attenzione, attenzione, che ecco, bello, infatti. Siete tutti quanti soddisfatti. Ci ho messo soltanto un anno per fare 8 tavole, ma è bellissimo. Uno c'è anche da fare. C'erano altre cazze da fare. Insomma. Avevi promesso di inserire anche il sottoscritto, poi no. Ma tu verrai, so, più avanti, soprattutto fra parte delle storie future. Non so, sto chiudendo il ciclo con manca ancora un'altra puntata, quindi. Voglio fare anche un altro saluto per tutti, a tutti e per tutti gli altri staff partecipanti al progetto di VL. Quindi voglio fare un saluto a tutti quelli che stasera non sono qui, e voglio fare un saluto agli spettatori da parte di tutti quelli che non sono qui. E quindi andiamo a citare Alex, JJ Abrams, James Bond della Cuglia, Nino Nicita. Non so, Roberto Bertoni, per dire, che non si sa che cosa deve fare, però insomma lui spesso cosa la farà? Spesso Simone Cognome Andreozzi, scusa, piccolo Simone Cognome, Danilo Tanda, che sono mesi che non vediamo, non sentiamo, non sappiamo se è ancora vivo o no. No, è vivo. È solo ancora ubriaco dalla sua festa di compleanno, credo. Cesare, il piccolo Cesare Giralli, che è stato promosso, gli facciamo tanti auguri. Morgan, certo, quindi poi basta, insomma, non ci sentiamo di salutare nessun altro. Ricordatevi di non morire durante le vacanze, sennò vi seppelliamo e pisciamo sulla vostra tomba. Questa è una cosa importante da ricordare. Io invece ringrazio tutti, ma mando un abbraccio importante a Stefano, perché comunque se esiste dietrologia, insomma, è anche e soprattutto grazie a lui. Non grazie ai suoi fondi, perché lui guadagna fantastiglioni. finora è l'unico che ci ha rimesso i soldi. Ah, non è vero. Ma tanto lui è ricco, lui sta ricco. Sì. Cosa sono $20 all'anno, per dire? No, ma noi questo ce lo ricordiamo. Quindi certo. Ringraziate Stefano, perché è grazie a Stefano che questo programma che voi amate tantissimo esiste ancora. Passate delle buone vacanze. Fategli delle donazioni. Divertitevi e mandate del prosciutto a casa di Stefano. Sì, no, del formaggio sardo, del vino buono, ecco, di quello fatto in Italia. Per gli italiani, grazie. Buone vacanze a tutti. Questo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, amici. Welcome to Geron to Gamer. Comunque, senti. La narrativa nel videogioco ha rivoluzionato proprio tutto. E c'hai ragione, il videogioco si è proprio trasformato. Ma hai visto l'ultimo gioco di Cage? Sì, quello che parla del tipo che scopre a 40 anni di essere in realtà una donna e decide di chiedere scusa a tutte quelle che si è trombato in vita sua, come no? Bravo, che poi arrivano gli alieni che gli danno un superpotere che si collega telepaticamente con la madre morta, che gli dà i numeri del lotto e diventa ricchissimo. Che gioco, Cage è un visionario. Però non ho capito, ma poi riesci a chiedere scusa, perché a un certo punto, quando cominciano le esplosioni, mi pare che un po' la storia si perde qualche pezzo. Ma no, è un marchio de fabbrica. Cage lascia sempre l'interpretazione libera al giocatore. Ma poi, hai sentito che doppiaggio? Ci stanno fior fior dei doppiatori, sembra una produzione cinematografica. È vero. Ormai sono anni che i videogiochi ci lavorano i doppiatori professionisti e danno questo compiuto realismo, quella profondità che dà a tutta l'opera proprio un'immersione, una maturità senza uguali. Giusto, proprio così. Oramai, tra cinema e videogioco, le barriere sono scomparse. E ti ricordi i primi che avevano un doppiaggio professionale? Stavano due spanne sopra tutti, come coso, quello di fantascienza, coso, quello con mostri meccanici che distruggono la galassia ogni 50.000 anni. Mario, sì, bravo. Che ricordi? Ma tu, i dialoghi, li ascolti tutti dall'inizio alla fine? No, io li sarto tutti. Non mi vale stare a sentire la gente che parla. Mi danno tanto di quel fastidio. A te? No, manco io, guarda. Ciao. Giuseppe, ho problemi stasera. Mi senti? Giuseppe, vedo che appari, ma non ti sento. Mi sentite? Pronto? Sta. Giuseppe. Staso? Saso! Saso! Saso! Saso! Saso! Saso! Mi sentite? No, non ti sentiamo. Ma forse ho usato una mimetica ottica. Uso la mimetica ottica. Ricarichiamo la partita, dai. Aspetta. È sparito proprio, sì. Devo richiamare. È sparito proprio. Episodio okay. Di Shadow Moses. Giuseppe è stato Saso. Preso da d'assalto da Giuseppe Saso.